Vedrete mai mangiare. Vedrete Giulio mangiare in questo 55esimo episodio della Maledizione di Catta. Benvenuti, bentornati. Forse ora ci vedete anche, ci sentite sicuramente, o forse no, ma speriamo di sì. Siamo tornati, Tycoons & Dragons, RIP GDR, Arci che disturba. E questo è, come dicevo, 55esimo episodio della Maledizione di Catta. Torniamo a giocarla dopo un periodo piuttosto lungo, dovuto anche alla pausa estiva. Solita campagna di Dungeons & Dragons, inutile dirlo. Diamo velocemente il benvenuto ai soliti ospiti, oltre a me Andrea Giacomo Vecchi, Giulio Bosi, Francesco Arcidiacono, Stefano Gamberoni, Edoardo Saladini, Marco Bosi Ciao. e il nostro master ecumenico Enrico Cattabriga. Salutiamo anche il maestro Emanuele Marchesini, che è citato nell'ultimo articolo che è uscito della Maledizione di Catta. A breve avrete anche altri episodi relativamente a Umbra Imperi, ma e forse la Maledizione di Catta, ma dipende un po' anche dai nostri master, vero Catta? Vogliamo finire tra Uno è voi pronto di due? Umbra Imperi. Uno c'è ancora in faretra, però non è un buon motivo per Sì. gingillarsi, perché se riusciste a fare il pareggio andremmo di pari passo. Comunque va bene. Proverò. E per questo, oltre a parlando di questo, ovviamente vi ricordo che ci potete seguire sui nostri canali social, Tycoons & Dragons, RIPGDR, ivi compreso il podcast no, di RIPGDR. Togliendo la dislessia, possiamo far partire la sigla e facciamo fare l'introduzione a chi mangia. No, non è vero. La facciamo fare, Sceo non c'era, Arci non c'era, Salla! Non mi ricordo un cazzo, mi facevo i cazzi miei, È però sì, perfetto, posso farla. farai un brevissimo riassunto. Al punto di vista di Race. Vai, Allora, musica prima. maestro! Chissà se faccio play così parte. Andiamo. Oh. Ah no, questo sono io. Però non mi sento più gracchiare per il momento. Grackings. Io Grax. la sto sentendo, ma poi secondo me No, no, nope. fatta partire solo per allora. Ma Rhythm non lo gestiva qualcun Imprevisto. altro? No, va, cioè, Io può non lo gestire chi so. vuole. È partita per tutti. Ora si Adesso sente. sì. Bene, vai, Salla, a te la parola. Ah, non abbiamo studiato, Saladini? Ah. Da Ecco dove devo bene. partire? In realtà, allora, l'ultima sessione in realtà non abbiamo fatto una sega, abbiamo solo discusso con il gran capo paladino È morto. vero. Esatto. Bel La morale della riassunto. favola però è che noi ce l'avevamo già imbuonato, ingraziato, eccetera, dando il teschio l'enorme teschio piccolissimo di drago. Poi non mi ricordo una sega, tranne il fatto che lui ha millantato di essere sempre stato contrario a Strahd e a volerlo uccidere. Il fatto sta che non ha fatto una sega, ma è stato maledetto. E l'altra cosa che mi ricordo è che ti ha dato la spada di Dio che tu darai a Strahd. Ah, è vero che ho avuto il mega E basta, non spadone. mi ricordo più un cazzo di altro. Qua, esatto, adesso è partito il Toto perdi spada. Cioè, quanti episodi ci metterò a Sì. perdere questa spada? Ma quello Marco, va fai tu subito il a resto del Strahd riassunto. diretta. Tipo, È finito il riassunto, è stato fatto tutto. esco dal castello, c'è Strahd che fa. Caccia la spada, va là. Vabbè, insomma, per riassumere seriamente, dopo varie vicissitudini siete arrivati a colloquio, siamo arrivati quindi a In colloquio realtà con... abbiamo parlato col capo dei paladini. Il capo dei paladini Gli ha dato la spada, fine. Ha detto, seriamente, sì, ha ma come dato ti la spada a permetti? Vez, ha riconosciuto bla bla bla il nostro valore Spada che sarebbe potrebbero la sua. aiutarci. Una spada magica, sì, una spada magica, uno spadone. Plus più che due, ha detto che se fossimo andati da lui prima di mettere a posto la testa del drago ci avrebbe stuprati male. Sì, noi abbiamo visto, magari noi avremmo stuprato male te, però no, insomma. In realtà io quello che mi ricordo io è... ti violento. Tanto Argy sta giocando a LOL con vabbè, con questo ritmo sotto. No, sta ascoltando. Ho sentito la sala. Detto, non avete fatto un cazzo? Poi in pratica il paladino lì, il capo paladino sta ascoltando una serie TV, sta guardando una serie TV. No, sto guardando delle robe per vabbè, lasciandoci il suo il suo vice che sta seguendo, avevano una sorta di relazione. Okay. Okay, in che senso? Senso? Non ho capito. Il vice e il capo paladino cioè, erano intrallazzati. Ce la intendevano. Però io diciamo che erano un po' come Achille e Patroclo. Giocavano con lo spadone. Adesso spada contro spada. Verso adesso non userà mai più quella spada. Sì, no, sicuro. Cioè, ma... Comunque il Alessandro Magno. Come si chiamava il suo coso? Raga, ho talmente astinenza dalle spade magiche, dagli oggetti magici, che anche se fosse coperta di sperma di paladino, che gli dai il più due, glielo lascerei sotto. Giusto, magari metto un guanto per impugnarla. Tutto. In realtà, Vez, da paladino dovresti anche apprezzare lo sperma di paladino. Paladino. Sì. Certo, è sacro, non lo sai? Ma infatti Vezza sta già ampiamente utilizzando, cioè. Quel parlare quel pomello. Vardi Strana sta già ampiamente utilizzando. È a forma di drago d'argento. Del resto, come stavamo dicendo l'altra volta, Katta ci sono. Cos'è questa parte? Il Dragon Dildo. Sì. Dragon Dildo, sì. Comunque, io mi ricordo che il capo dei paladini. Ha detto che lui ormai le sue forze sono terminate. Sì, è tipo svampato ed è rimasto il suo vice. Esatto. E il vice ha detto che invece probabilmente ancora un po' di tempo per vedere come andrà a finire ce l'ha sostanzialmente. E cioè, quindi poi... il capo non è sparito, nel senso che è andato da un'altra parte. Proprio non... No, il capo ha trovato la pace ed è, okay. è andato. Sì, esatto. È andato come Spider-Man. Quindi è un po' come se la sua maledizione fosse terminata e l'abbiamo liberato. In pratica è rimasta la fortezza con sto raggio di luce che dovrebbe attirare gli altri paladini. Sì, in realtà quello lì era successo la volta prima, che ci dà un plus a tutti, se non sbaglio. Ah sì, abbiamo una benedizione. Abbiamo una benedizione per chi si oppone a strada dei più, che ho segnato da qualche parte. Quindi chi si oppone a strada. Finalmente ha pagato la mia strategia. Beacon of Hope. Quindi Vezza dei più. Più una classe armatura e tiri salvezza a tutti quelli secondo che me gli soppongono a strada. Secondo me gli indecisi dovrebbero tirare un dado ogni volta e vedere se fosse onesto. Poi alla fine mi pare avessimo anche deciso su da farsi. Dovevamo scegliere se andare da montagna o andare da strada. Abbiamo scelto di andare da strada a suicidarsi. Ma no, non abbiamo deciso. No, non abbiamo deciso. In realtà stavamo parlando di splittare il party. Posso fare un'ultima domanda? Sì, di andare a farci massacrare da strano. Ma il vice cosa fa? È vero, avevamo preso delle decisioni strane alla fine. Col vice abbiamo un po' parlato. Sì, lui rimane lì, però poi abbiamo detto varie cose. Abbiamo parlato del tempio di... Debano, di Giada, un cazzo si chiamava Dambra. Dambra. Cioè, non puoi sbagliare. Io me lo ricordo. Però. Vabbè, Sceo che non può sbagliare. L'ho preso. Per me è facile. E niente, ci ha detto che è pericoloso, soprattutto per le intemperie, perché fa freddo. E poi che dentro ci sarà un sacco di tra... Stiamo sconfiggendo... Non sai cosa ci sarà. Mi ricorda un copriti bene di mi ricorda un copriti bene di Bertinellesca memoria. mi ricordo delle anatre. Per cosa l'aveva detto? No, perché che non mi ricordo. Quando venivo a Copenaghen passavo per Milano, no? La stanotte. Ah, esatto, da stazione. Mi disse copriti bene. È vero, è vero, è vero. ma tu vivi a Milano? Sì, sì, infatti copriti bene. Grande. Vabbè, giustamente arrivavo a delle ore che per lui non erano praticabili. Ci sta. Vezzi, volevi anche invitare maiale. Invece. No, in realtà non avevo. Comunque, parlando col vice, è stato fuori anche che metà della compagnia praticamente ha giurato fedeltà a strada dandogli dei... il culo. No, metà della compagnia dei... anche no. Dei pegni. Cioè, in due? Sì. No, erano praticamente tutti, perché alla fine anche voi altri gli avete dato le spade, le armi. No, in realtà è stato anche lui che avete dato la roba. Io no. Sì. Gli unici che non hanno dato sono Arci, cioè sono Patte. Che vale anche quello. E Sfortuna. Cioè, se lui ti charma e tu gli doni qualcosa, vale quello. Lui ti ha detto, puoi passare solo se mi dai questo, e tu, non voglio dartelo, allora non puoi passare. Ok, dai, tieni, quello è. No, beh, mi ha charmato a me. Vabbè. Non so se è un oggetto tuo, adesso magari funziona peggio la divinazione con quell'oggetto. A me se mi ridà due punti di costituzione come ai bei tempi, io torno. Tecnicamente io lascia gliel'ho buttata nel lago. Sì, ma il libro era suo, quindi il libro però non tu gli conta. Hai dato, però tu gli hai dato l'oggetto sacco. In realtà sì, è vero. E tu gli hai dato l'oggetto, sì esatto, gli hai detto tieni, non sono più un paladino, io amo il mio dio, ma ora te lo lascio. È vero. Salla mi pare che gli avesse ridato l'oggetto. A me l'ha ridato l'oggetto, sì. Sì, ormai Vez, tu sei ridotto così male che ti scambiano per il druido quando giriamo in compagnia. Adesso ho spada però. Però sì, tecniche, diciamo che di sì, assolutamente. Sei vestito di pelli e di foglie, no? Vabbè, poi c'è stato... c'è stata un po' una discussione solo tra me, cioè c'erano anche gli altri, però ho parlato solo io perché guardava me su tutte le visioni. Discutevi da solo, Giulio? No, col vice, col vice, okay. Col compagnone che... offre. Non so se era l'attivo o il passivo, comunque con lui. E, sulle visioni, sulla cosa dell'angelo, abbiamo un po' ripercorso tutta la... tutto quello che abbiamo fatto. Dal mio punto di vista, ah, sì, e boh, niente, dobbiamo decidere cosa fare. Sì, è vero, tipo, ah, è stato tipo, ah, ok, voi sì, siete finalmente i buoni che vinceranno, raccontatemi le vostre peripezie. Allora, ho bruciato dei cavalli, ho ucciso un bambino, poi l'ho riucciso. Poi l'ho ucciso ancora una volta. La morale della favola è che dal punto di vista degli avvenimenti il mio riassunto era perfetto. Sì, ma non sì, mi vabbè, ma per dare un po' di... Però non mi ricordo la discussione finale. Anche di quello che... Sì, Sala, ma tu non l'hai fatto semplicemente perché non hai seguito, non perché dovevi dare il riassunto. No, però non è successo niente, cioè hanno discusso tra di loro, abbiamo discusso alla fine, hanno discusso tra di loro. Io no, non io mi ricordo che alla fine... Io mi ricordo sì, che alla ma, fine... ma infatti io sono partito da quello che hai riassunto te, ho solo aggiunto dei sì, flavor. Sì. Vabbè, non litighiamo, Salla, il tuo riassunto faceva schifo. Vabbè, hai rotto le palle. Vabbè, Salla, il tuo riassunto faceva schifo, hai preso 4 e Giulia ha preso 8, non ti preoccupare. La discussione invece sul da farsi, com'era? Il tema della puoi recuperare la prossima sessione di Ombra in Piedi. Che visto che finché gli oggetti via qualcuno aveva... pensato di andare a fare un suicidio collettivo e provare a recuperarli da strada. Io mi ricordo che l'altra volta avevo detto che avremmo dovuto prendere la decisione in quel momento per evitare che ci fosse anche Sheo quella dopo a prenderla con noi. L'hai detto anche in Umbra Imperi. L'ho detto seriamente. L'hai detto anche in Umbra Imperi, te lo dico. Sì. È un leitmotiv. Allora forse l'ho detto dell'altro, non mi ricordo. Comunque l'hai detto anche qua. Che in realtà va a letto presto e mette un video per giocare. Dice le stesse cose. Ah, povero. Penso di aver tipo detto, ragazzi, prendiamo una decisione. Se no, la prossima volta dovremo sentire anche le opinioni di Sheo. È vero. No, però non l'abbiamo preso. Appunto. No, nulla di che. No, gag a parte, però non l'abbiamo presa la decisione, mi sa. cosa fare adesso? What's next? O andiamo diretti alla montagna, però Strad ci può vedere, ci può intercettare. Ah, sì. O prima andiamo al castello di Strad. Uccidiamo Strad, così non ci può vedere. No, no, è un attimo. Bene. Ah, lo accechiamo, poi se ne andiamo. Ma un attimo, ascolta una cosa, ma adesso a che punto siamo? Nel senso, chi è contro di Strad di noi? Nessuno. In teoria tutti, perché stiamo comunque facendo cose contro Strad. Ci sta la risposta. Uno mi ha detto tutti, l'altro nessuno. Però sarebbe divertente, esatto, se andassimo a uccidere Strad, uccidessimo Strad, poi andassimo al tempio e scoprissimo che il modo per distruggere la maledizione di Strad era farsi vedere da Strad mentre si andava al tempio. Beh, effettivamente siamo a livello 9. Ma cosa sta succedendo? Che è il massimo livello, quindi non può pensare a fare sorti di così. È vero, raga, questo ci dice che dobbiamo lanciarci contro gli Strad urlando. Siamo all'apice della notte. No, però in realtà siamo poco preparati, perché abbiamo solo Vez che gli hanno appena dato uno spadone, ma di oggetti magici non ne abbiamo, quindi dovremmo cercare di recuperare. Giulio Vez è all'apice del suo equipaggiamento con una spada. Sì, ancora io rega sto fermo, mi iberno qua. Vero, è anche vero che è più probabile che lo perdiamo rispetto a avere nuovi oggetti magici. Sì, è vero. Potremmo recuperare quelli vecchi. Vabbè, la logica sarebbe di andare al tempio. Cioè, la logica sarebbe che solo sfortuna andasse al tempio. Anche perché Strad è comunque un po' sfasato. Boh, ma sembra un po' sfasato. Quindi è sicuro al 100% che a parte sfortuna gli altri ci vede. No, non vede neanche Salla. Ma Salla non gli ha dato una roba? Ma gliel'ha restituita lui. Penso che... In teoria non vede neanche... Del bardo, Marco, possano suggerire insieme sulla breccia come ai vecchi tempi. Basta che veda uno che può vedere anche le chi c'è nelle vicinanze di chi si vede con un ascoltare. No, certo, può vedere anche le vicinanze? Cata, non inviterai lo split. È rilevante, il punto è split the party in modo che lui... Sì, splittare noi tre. Mi sembra un po' che stiamo insieme come Signore degli Anelli. Perché Arci invece è puro? Perché non c'era la sessione in cui... No, non gli ha mai dato niente lui. No, beh, io giro in mutande praticamente. Era proprio da un'altra parte, non era neanche la torre in quel momento. Perché lui non ha mai incontrato Strad. E neanche tu eri dalla torre. Arci. E neanche tu. No, c'ero io nella sessione in cui avete riempito Strad di oggetti magici, Sì, ma eri da un'altra parte. Eri da un'altra parte, sì. Eri anche tu, Salla. Sì. Per me comunque non ho oggetti. Io comunque stiamo a splittarci. Potrebbe essere il tuo simbolo druidico, il tuo bastone, qualsiasi cazzata. Boh, siamo a parte che noi non abbiamo praticamente magia, però abbiamo tutto muscoli, niente magia, e gli altri di mio non ha un oggetto magico, di mio ha la mia testa di bambola, che no, vabbè, è iniziato a parlare. Gli altri hanno il party più forte, cioè Arci. Ma è una pazzia splittarci. Split Arci. Io sono per splittarci, perché in teoria facciamo una sorta di... Avevo sete. Loro vanno al tempio, ha senso. È la prostata, Arci. Qualcuno ha sciabolato un Don Perignon in garage. Occhio al coronavirus, perché... Ha detto, è Don Perignon. Come dice... Anche... Chi è che lo dice? Boh, non mi ricordo. Nel Signore degli Anelli qualcuno dice... Hanno sciabolato un Don Perignon in garage. Sì. Ma infatti l'idea è tipo così: voi distraete l'occhio di Sauron perché siete così, e intanto io e Marco buttiamo l'anello. C'è anche chi dice: sì, è qui Salla. Tutto il tuo potere, Sauron, e poi arriva una cosa che fa esplodere. Ma esatto, infatti loro lo diremo. Loro hanno sgravati, però noi no. Oddio, Frodo non è che fosse... Sì, esatto. Frodo quando ha visto un ragno gigante che sulla carta lo stuprava... Anzi, Sam, quando ha visto un ragno davanti che sulla carta lo stuprava, ha tirato fuori il ciondolino di merda, la boccetta, e ha detto vattene. Quando noi vedremo Shelob gigante, e Arci tirerà fuori niente perché non abbiamo un cazzo, e diremo ehi, tirerò fuori il Sceo, un tirannosauro, vattene. Esatto, non abbiamo tipo un guento di vulnerabilità, qualcosa del genere. No, ma io gli incantesimi ce li ho, scusami. Anch'io. Darci un po'. Questo lo passo a voi a questo punto. Che incantesimi hai? Sì, Arci. Il punto io sono full. E anche che Irina con il bambino Angelo è da qualche parte nelle montagne che aspettava. E l'idea è andare a recuperare almeno la spada che ha il tizio. Scusami, dopo il crollo, dopo il crollo del muro di Berlino e il commercio della testa col tizio, abbiamo fatto un riposo. Sono passati più di un giorno. Catta? Catta, è inutile che stai a fare il master se non parli. Riposo? Avete... Non ricordo di riposo. Che potete riposarvi come e quanto volete. Cos'è che hai detto? Qui potete riposarvi come e quanto volete. Vabbè. Sì, ma non mi hai risposto alla mia domanda. L'abbiamo fatto? No, ancora non l'abbiamo fatto. Lo facciamo adesso. Mentre parliamo, riposiamo. Però l'unico che ha messo male è Garrosh. Quindi. Grazie Ambra che ci fa un commento molto osé. Bisogna sempre mettere il guanto sullo spadone. Race è full, a me mancano 10 di vita, Vets mancano 16. Chiaro, che Garrosh sono manca metà vita. Se no uso... Cioè, Pac... se volete facciamo un riposo breve. Tanto a Pac manca uno. No, come, rega, dire, facciamo... come manca uno? Cioè, ho tutto tra 96 sono... No, ragazzi, allora... 97. Riposo. Io sono full. No, no, non perdi alla testa. Secondo me possiamo fare un riposo. No, ti manca uno dal massimo. Non perdi alla testa. Riposo completo. Sì, sì, ma ci riposeremo, però dobbiamo decidere cosa fare. Riposo completo. Beh, Giulio, quello non c'è prima riposiamo, si decide meglio. Dormiamoci sopra. E poi, esatto, decidiamo. Io ti baso non sopra, cancello. Io splitterei solo se non abbiamo nessun'altra alternativa minima. No, da rega, non splittiamo semplicemente. Ha sempre portato bene. Come? Non splittiamo così, non stiamo a fare che mentre alcuni giocano gli altri si insediano. Vabbè che sono già in bagno, però... Dai. Io sarei per non splittare mai in generale, però se non c'è proprio alternativa e siamo sicuri che falliamo nel caso non ci dividiamo, allora sì. Allora, dipende, se decidiamo di andare alla montagna e rischiarci così dritti per dritti, non ha senso splittarci. Se vogliamo fare che alcuni cercano di recuperare gli oggetti, gli altri... stanno perché lì sulla montagna domanda, se... a farsi vedere da Strad. Ma perché la cosa più pericolosa è andare alla montagna. È chiaro che non ci vanno a recuperare gli oggetti quelli che Strad può dire ehi, ciao, ti aspettavo. Quindi tu dici di mandare loro tre a recuperare i nostri oggetti, ho capito bene? No, vabbè, senti. Quella è follia. No, così. Ma non conviene, anche perché mentre voi vi muovete vi vede comunque. No, quella è follia. Io pensavo esattamente il contrario. Sì. Andiamo noi che ci vede a recuperare gli oggetti. Boh, sì, Giulio, tu sembra avere un buon ascendente su di lui. Dio, no, a me sembra una follia pura. Cioè, ma ragazzi, andiamo tutti su, andiamo tutti alla montagna. Per e come la vedo io, per come la vedo io ci può stare, nel senso che noi andiamo da Strad. Magari lui vuole giochicchiare con noi e quindi riusciamo a recuperarli. Oppure ci sacrifichiamo mentre gli altri ottengono la conoscenza per distruggerlo e poi lo distruggono. Loro tre da soli nelle montagne. No, ma gli altri, quelli che non vanno da Strad, non è che dovrebbero andare al tempio da soli, per carità, è un suicidio. Dovrebbero stare semplicemente lì ad aspettare, a girare, quindi, avvicinarsi l'unico magari. L'unico dubbio è se prima di andare alla montagna tutti insieme recuperiamo o no gli oggetti. Quindi l'unico dubbio è questo, in sostanza. Sì. Cioè, è sicuro che andiamo tutti insieme sulla montagna, secondo me. Ma è chiaro che andiamo tutti insieme al Tempio d'Ambra. Ah. A sto punto io non perderei troppo tempo. Io pensavo che tu volessi andare loro. Vabbè, per me alla fine no, ci sta comunque fare le cose. Per me andare adesso, cioè il Tempio d'Ambra è il... cioè la sede del male, mandare tre persone. Ma scusate, ma qual è il vantaggio di splittarci? No, il problema è che Strad ci può vedere, non vi vede. Quindi noi vogliamo, cioè che Strad ci veda andare al tempio va bene, no? In teoria no. No, l'idea no. Lui sa che se noi andiamo al tempio acquisiamo... Quindi... Però noi non possiamo mandare loro tre a riprenderci gli oggetti da Strad, cioè è assurdo. Vabbè, sono quelli che possono passare inosservati, cioè il ladro... il bardo warlock. No, vabbè, ok, lui, ma vado. Tipo fare comunque un diversivo, cioè, nel senso... Beh, perché scusami, io da tirannosauro dovrei passare inosservato. Infatti ho detto vabbè il druido arriva, no, arrivarci, no, tipo il giardino di strada, tipo tutti i tirannosauri. Domanda base, siamo certi che Strahd sa con la guardia che ha un tirannosauro con l'armatura? Sì, ma Strahd c'è stato in quel tempio. Poi arriva tipo Arci da Aquila, tipo oddio, è qua, c'è dietro. No, regà. Ma Arci può evocare i tirannosauri? No, perché Kata mi ha fissato questo bug. Io potevo evocare degli stronzi che facevano diventare voi dei tirannosauri. Cosa? Giusto, Kata? Ah no, in realtà posso tirare il dado o no? O me l'hai proprio bannata? Che cosa, scusa? Il giochino di evocare più pixie che possono polimorfare i miei amici e fare quindi 8 tirannosauri. Quello non funziona. Bellissimo. Spettacolo. Quindi me l'hai bannata? Quello te l'ho bannata. Al day one, tipo... È la pazza del day one. C'è tipo pericolo, c'è tipo manuale del master, tipo attenzione ad Arci. Non so, viene strano sotto i 12 anni. Cioè tipo ogni classe dice se Arci fa questa classe ricordatevi di specificare questo. Beh, sarebbe un bel manuale. Arci lo comprerebbe. Sì, tutte le copie. Dicevi Giulio, no, c'è tipo manuale del master per senza Arci, tipo così, grande, piccolo, tre pagine, manuale del master con Arci, mille pagine. Irina, quando c'è anche la è mente, scesa con l'angelo che hanno salvato Kevin, sì. Il editore, sì, falla, falla Arx. Sì, ha detto che sarebbe stata sulle montagne, quando saremmo stati pronti saremmo potuti andarla. Quindi abbiamo anche degli alleati lungo la strada, in teoria. Strada? Ma, cioè mentre andiamo al tempio, in teoria. Cioè, Kevin non lo definirei un alleato, traditore di merda. Sei tu che non sei alleato di Kevin. Un alleato è stato ucciso. No, è proprio scappato, ha lasciato tutti nella merda, cioè. Stavo citando. Però, sai, io sarei per prendere tutti insieme e andare su. Cazzo di barile. Povero Garros, è mancato le due sessioni. Che sa di piscio, però poi ci mette un po' di proteine, tipo agli arachidi, d'altronde, e diventa buono. Non sono neanche sicuro tu abbia aggiornato la tua scheda al nuovo livello, perché di fatto non c'eri quando siete saliti. Quindi non ha livellato Shea? Non l'ho ancora fatto, è vero? No, dopo lo farò. No, non è livellato. Ah, no, niente, scelgo l'8. La prossima. Prossima campagna. La prossima campagna. Ragazzi, anche tutti al centro di Giada. Ti guardo mentre giochiamo. Vabbè, ma alla fine io... Ma raga, siamo al 9, Andiamo a uccidere Strahd. Cioè... No, dobbiamo prima fare la roba del Tempio di Giada. Dicevo, Garros, tu senti un'attrazione nei confronti di questo della montagna sulla quale sorge il tempio. E percepisci che vede una grossa... Esatto, percepisci una grossa energia provenire da quel luogo. Okay. L'ho detto che era sessuale. Ma chi questo? Vieni, Leonida, ragioniamo insieme. In termini di forze della natura. Vieni, degli spiriti delle terre selvagge che ci albergano. Chi è che ha questa sensazione? Ci sta che sia il barbaro totemica, ma non è le montagne, no, è proprio vabbè, no vabbè, e Kata vuole indirizzarci verso una parte obbligando Sheo a prendere una decisione in un senso che non possa aspettare. Non so se Vez, non so se hai ragione, Vez, dovevi decidere l'altra volta. Quanto cazzo è figo, cioè, lui tipico il Kata, non voglio obbligare nessuno. Semplicemente Sheo comincia a correre verso la montagna. No, io già di mio dicevo di andare alla montagna, quindi in realtà non mi fa cambiare idea. Va bene. Ma questo... però è esattamente l'idea. No, però spiega meglio. Gli spiriti della natura con i quali tu sei in sintonia, li senti particolarmente forti nella direzione di quel monte. Montone e Puma. Vigorosi un po'. Ricordate l'associazione degli animali. quindi senti un po' il richiamo della natura. Quindi dobbiamo fidarci di questa specie di hippie. Quindi mi sento nella mia vita di attenzione, non è un richiamo, come dire, benevolo, che la natura non è, il druido lo sa benissimo, ma anche tu, non è assolutamente benevolo. Ed è per questo che ha fatto edificare. Il druido lo sa benissimo, la natura, la natura è matrigna. La natura è infida, tagliate presto quegli alberi, potrebbero essere pericolosi. La natura è questa... matrigna, come diceva Leopardi prima di trasformarsi in tirannosauro, cosa? Il potere che percepisci è selvaggio ed è incontrollabile e per nulla benevolo. Ma è diventato un romanzo erotico? Oh. Va bene, ragazzi. Per romanzi leggi tu, ti devo consigliare il libro che sto leggendo. Cioè, allora, facciamo una domanda. Prima di iniziare, prima di andare verso la montagna. L'ho letto. L'hai letto? Quanto fai? È un po' peso, però sì, sì, infatti faccio una fatica boia, però va bene. Va bene. Volevo chiedere una cosa, per andare da Strad, eventualmente quale sarebbe la Strad? No, la anche, allora, ma soprattutto quale sarebbe il piano? Allora, vi ricordo ancora un dettaglio che vi siete sicuramente scordati, che tecnicamente copyright, ovviamente, trademark. Tecnicamente. Voi avete ancora un suo invito a cena che non avete praticamente mai utilizzato. ma a parte questo... No, certo. Che invitati scortesi che siamo. Oltre a è ancora valido? Sì, lui ci ha invitato a cena, ha detto certo, se volete venire stasera, noi dopo due mesi ci presentiamo. Tutte le vicissitudini, l'abbiamo mandato a fanculo, le abbiamo rubato alla ragazza. Sì, sì, ma potete venire ancora a cena, tranquillo. Voi l'invito lo avete, poi chi lo sa. Siamo qui per quella cena. Io una volta l'ho ingannato, Strada. Sì, è vero, è stata una coincidenza che poteva succedere tipo su una volta su un milione. Zitto, quando parlavo di materia. Non sai di cosa stai parlando. L'altra cosa che vi sento di farvi considerare è che oltre alle legittime preoccupazioni della facilità con cui lui, con i suoi mezzi magici, può sfruttare le persone, ha anche molti mezzi tradizionali, diciamo. Anche se io non sono una persona. Non era quel film. Ah no? E poi quella di... quella sigla di... Jurassic Park. Perché... Io dico, io non sono una persona, divento un tirannosauro. 9 più 5 aumento di 14, Giulio. Va bene. Fantastico. Io ho ancora il punto negativo, comunque, in tutto questo. Ecco. Vi ricordo che mi curano. In Barovia, come anche tutto il resto, le colline hanno gli occhi, come anche molte altre cose, quindi esatto. Sì, che cosa è? Cioè, Strad, oltre ai mezzi di sfruttare magici, ha infinite spie, animaletti. Sì, ma infatti io dico, visto che anche Katta ci vuol far fare questa cosa, andiamo direttamente a sto cazzo. Ma fu Katta a metterci il dubbio, faccio presente. Questo vale in ogni direzione, non è che da una parte sia diverso dall'altra. È un elemento da tenere in considerazione. Però io voglio chiedere, eventualmente, per riprenderci sti oggetti, come potremmo fare? Cioè, secondo me è quasi impossibile. Arce, hai letto Berlusconi? Lotto per uscire da questa infernale malattia. Sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Cosa? Adesso... Cioè, lui vuol fare anche che ce l'ha più grosso anche su quelli che sono morti dal Covid? Sì. Bello. Sì. Grande. Chi l'ha scritto, scusa? Io con una carica virale record lotto contro non l'ha scritto, l'ha detto, contro questa infernale malattia. Ma chi? Berlusconi. Ah. Ma di cosa sta parlando? Della vecchiaia. Berlusconi non era in ricovero e praticamente si sta riprendendo. Sì, però se la carica virale era così alta, era sintomatico. Ah, sì, è assurdo, ma se la vabbè, carica virale era veramente da record, faceva anche fatica a raccontarlo, secondo me. Ma va bene. Detto ho mangiato una pesca sola, vero? Riguardiamo la diretta. Timelapse. Commentate, scusate, potete commentare. Esatto, in diretta, diteci quante pesche ha mangiato Arci, per favore. Domanda per i loro fan. È vero, ma domanda per i loro fan. Ricchi premi, puoi, se indovinate quante pesche ha mangiato. Le ha buttate nell'umido. Chi risponderà bene? Li ho mangiati. Foto in privato di Arci. Sei pazzo, no. Sale è la parte più buona. Esatto, no, li ho mangiati. Comunque per rispondere a te, Vez, andare a casa di Strad, boh, mi sembra un suicidio. No, anche a me, però volevo capire, visto che era stato proposto, che idea ci fosse dietro, se c'era un'idea. Voi sapete questo, perché non mi ricordo chi ve l'ha detto, che periodicamente di fatto ci sono della gente che prova a entrare nel castello, tipo folle, con i forconi e le torce. A parte che anche Van Richten ci aveva consigliato di andare. Van Richten aveva tutti i suoi piani, ovviamente. Chissà che fine ha fatto. E il punto è, per quanto possa sembrare facile entrare nel castello, è uscirci il problema. Perché? Perché ha un senso unico. Beh, se abbiamo un invito a cena ed è un invito a cena fuori, Strada, andiamo a cena fuori. Preparati che andiamo. Non è una di quelle battute, siete voi la cena. No. L'invito a cena è nel castello, c'è proprio scritto. Okay. Dovremmo bere un sacco di argento, perché così non ci vede. Ci vede che Strada non ha mai fatto un look in it con noi, va là che si caga in mano. Andiamo a cena. Okay. Andiamo a sta montagna allora, quindi ho capito. Sì, direi che è la cosa più... Ci facciamo vedere anche se andiamo alla montagna, va bene. Voi alla fine, come dice Katta, se ha tutti gli animali sotto il suo controllo, ci vedrebbe, non dico come... Io uso Silent Image per diventare un'altra roccia. Così me non vedo. Non ho capito cosa ha detto Bart. Torno una roccia, non mi nota. Bene. Giulio, adesso prenditi poi l'olio della sì, l'odio più o meno. Okay. L'olio o l'odio? La domanda è: riuscirai a usarlo la prima boccetta che di olio sharpness? Sì. La prendo io? Sì, perché rende magico e tu non hai l'arma magica. Ma la mia idea è di andare a recuperare una spada. Giulio? No, mi andate attraverso l'acqua. Momento, chi è che ha armi magiche? Scusate. Io. Vez. Basta. Io ho armi d'argento. Anch'io ho armi d'argento, ma... Io ho armi magiche. Cosa sta succedendo? Sì. Cioè, vabbè, sì. Vabbè, gli artigli della forma selvatica di Arci sono magici. Ma lo mangi quindi così solo Arci, quindi solo la spada che c'ha la sacchetta. Io ho le palle di fuoco magiche, se vuoi. Scusa, ma sembra una roba che tipo va lì tipo ta mossa del karate sulla cosa. Pane buonissimo. Perché perché domani, siccome sono al 100, non pranzo, quindi sto mangiando tutto il pranzo di domani adesso. Il disagio era una battuta, vero? No, aspetta, che chiudo. No, quando dico queste cose non sono mai battute. No, raga, domani come apro una bottiglia di pane da solo, così. No, poi c'ho anche il resto. Vabbè, adesso mi metto a cucinare davanti a tutti adesso, cioè. E che cosa hai da mangiare? Vabbè, sei andato in bagno davanti a tutti, potevi anche cucinare. cioè, cosa mangi? Quello è... Questo qui è buonissimo perché è tipo i semi, cosa è buono? È squisito. Morbido. Cioè, tu mangi 10 fette di sta roba. Ma raga, non è questa la cosa che fa ridere, no. È che mangia il pranzo di domani. Anche. Tu alle 22 stai pranzando. Domani no. non faccio il pranzo di domani. L'avete visto Tenet? No. Qualcuno ha visto Tenet? No, io però sì, provo andarlo a vedere. ho il cagare, che succedendo qualcosa del genere. No, perché? Tenet è uno spettacolo. Andiamo a vederlo, Giulio, allo Space, ho un sacco di biglietti. È piaciuto un botto. Ok. Vengo anch'io, adesso io devo rivederlo. Sabato. Ha detto che fa cagare. No, questo appunto. Weekend no. Magari mi è sfuggito qualcosa. Mercoledì prossimo o sabato prossimo, vabbè, ce ne parliamo. Settimana prossima sì, va bene. Bene. Indovinate nei commenti quando andranno al cinema. Ok. No, a me è piaciuto veramente tanto. Comunque, chiudo la parentesi. Andate a dormire per riposarvi. Farà cagare. Scherzi. Conoscendo scemo. Vai, dormiamo. Facci dormire. Potete dormire a profusione. Vi svegliate dopo due minuti. Boh, io ho letto che è bello, ma non si capisce un cazzo. Dai, giochiamo. No, io si capisce. No, si capisce, ma non è granché. Per me è poco originale. Ecco. La prima. Ma come poco originale? È una roba mai vista prima. No. Perché non hai visto Dark? Sì, l'ho visto. Dai, sono le solite cose. Ni. Vabbè, non voglio dire niente perché spoiler, però. Ni. È un meccanismo mai visto prima. Vabbè, ok, lasciamo questo piccolo intermezzo del mio salotto di intrusione del stile. Oh, cazzo, Tenet non faremo la puntata, io non posso guardare il film con i viaggi nel tempo, è troppo mainstream. No, è che mi fan cagare il film con i viaggi nel tempo. Comunque hai ragione, anche a me fan cagare i viaggi nel tempo. Posso? Beh, adesso tipo Arci magari ha ragione, non sono tecnicamente viaggi nel tempo. Non tu non tecnicamente, neanche il giorno della marmotta fa cagare uguale. Vabbè, quello è divertente perché c'è Bill Murray. Allora, Arci, dammi ragione, tecnicamente non sono viaggi nel tempo. Comunque non li può. Sì, vabbè, il concetto è quello, però. È un concetto molto nuovo. Lo vedrò quando ci andrò. Tanto adesso deve uscire Dune ed è l'unica cosa importante. Esatto, quello posso guardarlo. Ma è vero. Dove ne esce il trailer, insomma. Va bene, detto questo, andate a dormire. Piuttosto, raga, la cosa deprimente è il nuovo Batman che lo fa Robert Pattinson. Però lui è un gran attore, è un grande Robert Pattinson. In realtà, sì, ma raga, ma non può fare Batman. Onestamente, prima di vedere il film, non vedo cosa. Cioè. Merda, non mi tocca di Robert Pattinson. Vai, hai visto Tenet, Arci? Solo perché ha fatto. Hai visto Tenet? Break, come cazzo si chiamava quello dei vampiri? C'è Robert Pattinson. No, lo so, per quello l'ho detto. Da rega, guardate The Lighthouse. Raga, è che non può fare. Cioè, Batman non ha un superpotere se non tirare degli schiaffi ed avere dei soldi. Robert Pattinson, cioè, l'attore ha i soldi, però dicono. Cioè, o prende 30 kg. Ma è. Coso Christian Bale. Esatto. Christian Bale è il doppio, è tre volte Robert Pattinson. Ma se vai a vedere tutti gli attori che hanno fatto Batman, nessuno di quelli ha un fisicato. Vabbè, George Clooney, Arci. No, ok, va bene, rega, ma Christian Bale è molto più fisicato di Robert Pattinson. Rega, ma Robert Pattinson l'avete visto, è tipo... Ma si metterà in forma, tipo, per tipo questo. Esatto, si sarà messo, perché lo stanno girando. Sta già girando. Esatto, sarà in forma. Non è un problema. Dipende che versione di Batman è. A parte che io non ho mai visto Robert Pattinson a petto nudo e non sapevo che tu avessi questa confidenza. Però... Io sì, guardate The Lighthouse. Christian Bale, ma anche Christian Bale si mette in forma per Batman. Cioè, prima non è che fosse... Si è messo in forma per fare Batman. Ma Christian Bale è uno che si trasforma a piacimento quando cazzo ne voglia. Robert Pattinson... E comunque, se permetti, Batman da fumetto avrebbe il livello di fisico di che ne so, di un Hugh Jackman in Wolverine, e Christian Bale non ci va neanche vicino, ma neanche lontanamente. Quindi, cioè, raga, possiamo giocare a D&D per favore. È veramente arrivato. Va bene, venite svegliati al mattino dal rumore di un buon numero di passi in armatura pesante. Mi sa che Sceo ha appena perso un livello. È arrivato il nostro esercito, ottimo. Se sentite un passi scanditi dal rumore di un tamburello, mi alzo, mi affaccio a una feritoia con l'arco in mano. Bene. Scusa, ma no. Vedi di fronte alle tratte del sparo a Garrosh perché si mette a parlare. Ok, ma non ho parlato, stavo per fare una domanda. Ok, allora non starò a gara. Io inizio il rituale per evocare mia famiglia. Che non io nel dubbio non faccio la domanda. Esatto. No. come cazzo li chiami, Atanas, vedi dalla finestra del castello che davanti carattere. al portone si sono radunati una ventina di Revenant in armatura. Beh, almeno non l'ha chiamato Vardist. No, rega, abbiamo l'esercito. Infatti non ho capito perché ti sei incazzato. Andiamo alla Paolo, strada. aspetta, in teoria sono... No, vabbè, nel senso, io è la prima cosa che ho detto, abbiamo l'esercito, però il mio personaggio sente. Ah. Va bene, andiamo alla strada, via. Ok, no, allora va bene. Sente dei rumori di passi armati fuori. Quindi siamo sicuri che sono al 100% con la nostra causa, visti gli discorsi che avete fatto. Sì. Vai a chiedere. Oh, puoi andare a lanci. Tipo va giù e fa: Vabbè, tu adesso sei con la nostra vediamo. causa? Ma sì, e tu invece cosa ne pensi? Ma io sono un po' più tiepido, però insomma se c'è da fare, alla fine seguo gli altri. Vabbè, adesso Ok, e tu vedremo anche cosa invece? ne pensa Coso. Come cazzo si chiama? Tu, cavaliere, qual è il tuo mestiere? Sam Godfrey Cavaliere! Ah, dimmi. Wilim. È il secondo in comando, che adesso è il primo in comando di Paladini. Terzo in comando, che però è diventato il quarto, però poi il quinto ha detto che poteva diventare il primo, e il secondo gli ha È quello passato. che giocava con lo spadone che adesso vezzo insieme all'altro. Quello che era terzo, Ah, amante di Vez. ma Ah. poi il primo è andato in ferie, quindi il Esatto, secondo. magari lui ha un feticismo per quello spadone in particolare, quindi No, me ne è adesso ha un andato. Sti feticismo per cazzi. Vez. Adesso c'è la Vez. Sti cazzi. Ok. No. Cosa fa? Appunto, cioè, tu, quindi l'amore passa da Non ha importanza. Per tenermelo sono disposto anche a mettermelo tutto nel culo, guarda. Non c'è il problema. nuovo capo dei paladini è lì con noi. Quello che dici. Attenzione. Molto, molto attento. Bene. Andiamo in ordine quindi alfabetico. Atanas, cosa fai? Dico che ci Uccido, sono i sgozza un tizi bambino! e niente, se c'è Godfrey chiedo a lui, se non c'è dico di andarlo, andiamo a cercare Godfrey. Probabilmente sono i suoi. Voi siete nel vostro alloggio, al piano, sapete che la stanza matrimoniale era al piano di sopra, dove probabilmente adesso giace il corpo senza vita, senza non vita, di Vladimir Horgard. Comunque sei un gran stronzo, Katta. Già normalmente io sono ultimo in iniziativa, poi è pure per ordine alfabetico, cioè sei proprio una merda. Basta. Giocate voi. Vado a prendere Vabbè, qualcosa da facciamo il bere. free play. Vabbè, io ho detto andiamo a parlare con Godfrey, se non c'è sono i Esatto. tuoi. Ardis. E giustamente il paladino se ne va. Andiamo a parlare con un paladino, il paladino se ne va. Beh. Ardistran, cosa fa? Ardistran. Ma se ha tolto le cuffie se ne ha. Vabbè, gli Ah, altri ce l'è. Ma io hanno seguo Giulio, la stessa okay. intenzione. Altre dichiarazioni di intenti? Io sto facendo il rituale per evocare mia famiglia, quindi 10 minuti li spendo. Giusto. Mi sto aspettando che arrivi il famiglio per trasformarlo in un tirannosauro, quindi aspetta. Vabbè, a meno che. Ma dalla stanza del tipo si vede poi l'esercito. O qualcuno vuole tipo rimanere qui da palo. Io personalmente no, cioè per me possiamo andare tutti dal tipo e Con chiedere. sto paladino, Vez in buoni rapporti. Gli ha Tutti in fatto buoni tenere la rapporti. spada, poi gli ha dato anche la sua arma. No, ma Esatto, dico. Vez più di noi. Vez Siccome avete ormai. detto che ci avete passato una sessione a discutere. No, ma non a discutere che litigavamo, a parlare delle varie cose. Sì, per quelli che non Parlare di c'erano. quanto ci avrebbero uccisi male se non avessimo messo prima la testa a posto. No, ma quello prima con l'altro. Esatto, l'altro invece è Godwin, che era diciamo un pochino più sano di mente, e vi ha detto appunto che c'è qualcosa che lo tiene ancora ancorato a questo mondo per ancora un po' più di tempo, e lui vi ha offerto Ne sappiamo tutti gentilmente, cos'è. esatto, vi ha offerto gentilmente il suo aiuto, in quanto lui, oltre ad essere un valente cavaliere, è anche un esperto di arti divine e quindi ti Esatto. può aiutare. E per questo poi è nata tutta la discussione Ah, dell'angelo, degli angeli beh, vari. allora abbiamo l'esercito. Eh sì, cioè Sì, in a teoria posto. sì. Marciamo sul fosso di Erbi. Ardistral, Atanas ti dice ci sono questi qua, andiamo a cercare Goblin. Cosa fai? Dico, non abbiamo nulla da temere da parte loro. Sta baciando lo spadone. Io mi chiamo Garrofien prima. Scusa. Andiamo ad incontrare i nostri fratelli. Ma senza andare a parlare per sicurezza con Godwin, Godfrey. E beh, penso che verrà pure lui, no? Andiamo all'ingresso. Devo cambiare in un... Vabbè. Come hai vinto tu? Va bene, andate all'ingresso. Godfrey non si vede. Sono pesati. Esatto. Uscite dal portone, immagino. Sì. No, dalla finestra. E io sguardo... Vabbè, io, mentre loro accolgono, tra virgolette, i sento il richiamo ospiti, vado a chiamare Godfrey. Oh, fai il sapiente anche in questa campagna adesso, grande. Ci può andare qualcuno che sa parlare. Io? Non sono analfabeta. Non è quello. Un troglodita. Vai, io apro il portone. Sì, ma sei un caprone puma. Quindi... Sguaino la spada. Ma scusa, montone puma. Okay. Sguaino spadone. Il cui nome era Silver Flame. Oh, molto figo. Bene. E dico benvenuti fratelli, bentornati fratelli. Il sole è sorto di nuovo su Barovia. Vedo nei vostri occhi. Vedo nei vostri occhi. Ho paura. Come questo è il giorno. Bene. Verrà il giorno dei spadoni rubati da Strad e delle bambole. No. Vez che parla così con i paladini, in realtà tipo lui è in vestaglia con le foglie e sto spadone d'oro. Amici, sono anch'io un paladino. Tira le monete. Quelle ciabatte. No, le dico, pantofole. La papalina in testa. Il sole è sorto di nuovo su Barovia. La candela. L'ordine del drago d'argento marcerà contro Strad. Bene, loro si girano tutti verso di te e ridono. Uno di loro fa un passo avanti. E lo riconosci come il vostro vecchio amico. Oriordan. Oh, bella. Siamo al posto. Lui si inchina al tuo cospetto. E gli altri seguono il tuo esempio. Sì. Ti ho sentito tipo Carroci. L'esorcista. Oh, bella! Sì, perché mi ha avuto un altro blocco. Arrivi di fronte alla stanza da letto matrimoniale di Vladimir e Godwin. La porta è chiusa, ma non ha chiave. Ma che non ti capisci che avresti fatto meglio a stare fuori. Guardone, se nessuno ti ha seguito, sei da solo. Ok, stanotte un trisom si potrebbe fare. La porta si apre. Entro. Ok, i tuoi passi cingolano sulle vecchie c'è nessuno? Che bello quando la Wizard cerca di mettere questi elementi molto LGBT e hanno esattamente lo stesso l'effetto esattamente opposto di quello che ma si imbattono contro una compagnia di trentenni. Vabbè, capito, sono due non morti, che uno è non morto che ha perso anche la non vita, cioè nel senso, e quindi sta non scopando un cadavere, tipo è non necrofilia, non so neanche se si possa definire necrofilia effettivamente, cioè. È la non necrofilia. Va bene, vedi il corpo senza dettagli. Il corpo senza non vita di Vladimir sul letto, tipo camera ardente, e di fianco, appunto, in veglia, in preghiera, il caro Godwin, che è lì, appunto, in tranquillità seratica, che recita il, diciamo, il requiem per il suo amato. Vabbè, cerco di essere il più educato possibile, ma in quanto becero faccio fatica. Ah, sono facile. Eh sì, sì. Questa cosa è sfuggita. Ti do del turno, non capisco un cazzo. E scusa se ti disturbo, ma sono arrivati i tuoi. Ho sentito. Infatti, non volevo dirtelo, ma è tipo il rumore di un esercito che arriva da lontano, se vuoi anche. Bello il Requiem di Mozart. Sì, ma falli fare, ma poverini. Grazie Garrosh, ho sentito e mi aspettavo che il richiamo che avete lanciato non sarebbe stato ignorato. Bene, se vuoi unirci a noi ti aspettiamo all'ingresso. Io lo lascio solo, dai, non voglio rompergli le palle. Ti ringrazio. E tanto ormai voglio dire. Appunto. Sento che per ora il mio posto è qui. E poi l'ultimo gesto del nobile Vladimir è stato di consegnare le sue armi e il suo simbolo sacro a chi pensava fosse degno di portarle. Quindi sarà tira adesso Varist. Io mi fiderò di lui. Unico momento di gloria dell'avventura. Quindi sono fiducioso che saprà fare il buon uso di questo potere. Cioè, no, il momento di gloria dell'avventura è aver ricevuto il regalo da Frocio. Sì. Quindi se dovesse avere bisogno di me, mi troverete qui. Ok, ora ti lascio solo. Liberissimo, va con... Magari gli piace questo qua tu. Ma infatti è quello che sostengo. Va con Arginbost, fratello. No. Da serie, togli dal cazzo, coglione. Lasciami col cadavere, non cadavere del mio. Ma... Che poi in realtà ci sta semplicemente pregando, cioè non è che si stia facendo... Sì, vabbè, adesso non possono scrivere altro, cioè... Catta può a lui, io ho capito questo. Catta può interpretare liberamente, però. Vabbè, ma Catta è abbastanza ligio, come sappiamo dalle descrizioni. Anche quando non guardiamo, cioè, poteva farle in modo molto diverso. Poteva fare tipo mettere in una posizione diversa e dire: sento che il mio momento sta arrivando. Ah, ci guardano ancora? Ci guardano ancora dall'India, dal Pakistan. I nostri follower. Boh. Diciamo che sarebbe stato molto scary movie, però dopo. Sì. Scusami, tu Vez non vedi quanta gente sta guardando adesso? Ma se arrivano dal Pakistan saranno degli amici dei miei clienti di Porto Maggiore, sicuramente. Sapevo, l'avresti detto. No, dico, non vedi quanta gente sta guardando tu? No, raga, ma non sta guardando, direi adesso nessuno. Adesso non direi nessuno. Poi comunque vedi le statistiche, puoi guardarle. E comunque vabbè, io me ne vado. Uscendo gli chiedo se ha un'altra arma magica. No, non è vero. E niente, torno con gli altri. Nulla, neanche un coltellino. Non è che è rimasto niente. Bene. Pugnalino, dai. Mi avete messo la pulce nell'orecchio, vi leggerò la descrizione di questa stanza. Grazie, no. Giulio. No, qua è non stanza. Siamo all'aperto. No, ma io per essere gentile ho tenuto la testa bassa. La percezione per capire queste cose. Hai capito? Io volevo essere gentile, ho fatto l'inchino e sono rimasto inchinato. Guardate i miei piedi. Sappi solo che all'entrata, accanto dell'entrata, ci sono due animali impagliati, un lupo crudele e un dorso. Ah, quindi è anche zoofilo. Vabbè. Però il lupo è più uno. un lupo da lancio. Oh, ti prego, posso usarlo? Hai visto, l'hai guardato per te. Va bene. Ori Ordan si rialza e ti saluta in modo estremamente caloroso. Per un non morto. Esatto. Anche Ori Ordan. Adesso che lo spadone mi viene in mente è un po' così ma sai com'è le comunità di guerrieri tra paladini sì, esatto sì, nel senso. Mi viene in mente Ori Ordan, mi viene in mente Sala quando dicevo Ori Uken. perché sarà vicino lui. Vabbè, non so che dicevo Ryuken. Oriordan ti dice: sapevo che ho fatto bene a riporre le mie speranze nelle vostre ancora caldi carni giovani termini. Molto inquietante. Davvero una parentesi erotica. Adesso. Molto inquietante. Ma sapete che questo ordine la tua soffice pelle Vardis sta... esatto. No, oh, non digli di no, però ci rimane. Sir, è un piacere rivederla. Eccolo. Ma questo è solo l'inizio. Piacere è tutto mio. Ma starai correndo un po' troppo. Arruolami nella prossima guerra. Purtroppo credo che possiamo andare avanti per le prossime 8 sessioni. Purtroppo, anche se la luce non riuscirò mai, è tornata, la fiamma dell'ordine è tornata ad ardere, la tenebra è ancora su questa landa desolata. Per scoprire come poterla sconfiggere, ci dovremo recare presto alla montagna D'Ambra, al tempio d'Ambra, nelle montagne di Giada. I briganti di paglia bevono paglia. Sarete al nostro fianco in questa impresa? I colpi dei sassi. Nobile Vardis, tu ci hai reso un... Tu sei leso, cos'hai detto? Sì. Se pensi che il master ci faccia venire con te, non hai capito un cazzo. Esatto, noi siamo qua solo per fare rappresentanza. Questo è puro flavor. No, siamo qui per dirvi grazie. No? È uno con lo schermo verde dietro. Esatto. No, vabbè. Ti dice però che nobile Vardistran, tu ci hai fatto un enorme servizio riaccendendo non solo una fiamma che arde in cima della torre del castello, ma la fiamma che splende nelle nostre anime. Ciao Alessandro. Vita vissuta. Mi sarò fatto 10 fette di pane, cosa vuoi che sia? L'ho trovato 11 forse, dai. Stavate facendo come JD i dialoghi inventati. Ma quindi Francesco, Francesco, il pane per domani, l'hai finito? Come cazzo facciamo? Di nuovo. 8 fette di pane e 3 pesche lì, basta. Ma porco. No, sono. Io voglio mangiare quel fottuto pane, me lo mangio. 220, 70. No, erano 300 di pane. 300 l'ha mandata anche voi la foto con il pignamone. Sì, anche a voi. Top. Che ha incontrato buttando la spazzatura. Ah, no, a me no. Con Migna. Sì. Ha mangiato più quella roba da anni. Salutiamo Vigna, nonostante non l'abbia mai conosciuto. Ma grande Vignamone. È vero, non l'ha mai conosciuto. Ma ormai lo però lo conosce per fama, assolutamente. Esatto, sì, è come se lo conoscessi. In un certo senso, sì. Creatura mitologica, metà umano, metà elico. Ma Vigna l'hanno bocciato? L'hanno bocciato in prima o in seconda? Prima. Ma l'hanno bocciato, sì. Sì, sì, l'hanno bocciato. Mm-hmm. Bene. Grazie. Nobile Vardis, se l'hanno bocciato. Noi purtroppo non potremo mai ripagare. Ho visto cose peggiori a maturitarci, quindi. No, ok, però. Della stessa moneta che tu ci hai così generosamente regalato. È vero, la fiamma adesso nei nostri animi. Vede Vez con la spada così, per paura che qualcuno gliela prenda. Oh, piano però, dove vuoi arrivare questo? Siamo nei nostri animi. Perde con rinnovata forza, ma una candela che brucia da dorati brucia più velocemente. Ma grazie a voi che avete la spada del druido, dillo Kat, ti prego. Fai che Vez deve andare via lo spadone. No. Ora che la maledizione che attanagliava i nostri spiriti a questo luogo è spezzata, potremmo andare incontro ad una gloriosa morte e che questa sia quella definitiva. questo lo potremmo fare finché avremo, i nostri spiriti saranno sufficientemente forti da permetterci di andare avanti. E quelli che vedete qui sono quelli che avevano ancora in corpo abbastanza animo da poter continuare dopo che il fardello è stato levato. Ma non so quanto, per quanto tempo ancora il loro animo continuerà a risiedere nei loro corpi. Mi raccomando, non perdetevi d'animo. E si libererà finalmente. Quindi siete pronti a un'ultima cavalcata, un'ultima avanzata, come quella degli Ent. Una fine gloriosa per entrare danzando nell'aldilà. Benissimo. Allora, al nostro ritorno dal tempio. Ah, ti sei rassegnato ormai? Beh, ci sta. Onesto, però per il tempio, per l'avanzata contro Strad dovrebbero esserci, da quello che ho capito. Giusto, Katta? Non sanno quanto tempo dureranno ancora. Secondo me partono. Mi puzza già questa cosa. Vogliamo andare da Strad ora, rega? Come avete visto, Vladimir, che era ben bel po' più consumato, quando avete acceso il fuocherello, si è liberato ed è volato. Possiamo anche per sferrare il colpo e l'arma svanisce nel mentre. No, possiamo anche mandargli a far casino in modo che Strad sia occupato. Dai, abbiamo l'esercito, non buttiamolo così in cesso. Allora, non ci seguono la montagna, che... no, è inutile andare la strada adesso. Ma da Strad, se li ammazziamo uno dei loro, magari ci seguono. Magari quando arriviamo da Strad qualcuno c'è, o se no andiamo adesso e ci seguono da Strad. No, andare da Strad adesso non ci siamo. Non saremo mai a livello più alto. No, ma è un suicidio, perché metà del tempo non gli può fare danni. Una bestia misteriosa. Ma ragiona Giulio, le armi magiche che vogliamo recuperare sono da Strad. Ma regà, ma vogliamo recuperarle? Volete veramente quella che voglio io? Quei bastoni più uno di merda non c'è, il punto. Che spada c'è mai stata? Che cosa di magico c'è? Quella dell'angelo che avevo preso e mi è stata ripresa. Allora siamo lì a fare i cucitici, vuole l'asso di spade con l'angioletto. Voglio lo spadino. No, ma raga, ma sono così barate queste armi, no? No. Cioè c'è altro rispetto al pigiama che ha addosso, beh sì, però... No, il punto è che sennò non gli fai proprio danno, quindi... Ma sei un guento. No, ma il tempio di Alabastro, ci sarà un modo per avere i tempo di giù. In teoria lì tempio di... dovremmo raggiungere la conoscenza per spezzare la maledizione di Strad. Sì, anche tempio perché di Gesso. No, dobbiamo andarci, dai. Anche perché alla fine il nostro obiettivo non è uccidere Strad, ma eliminare la maledizione, quindi magari eliminando raccogliere informazioni, dobbiamo raccogliere informazioni. No. Quindi potremmo anche andarci, l'abbiamo. Nel senso che magari eliminando la maledizione abbiamo già risolto il problema e Strad sparisce. Ma credo che il punto sia che dopo puoi ucciderlo. Prima sì. Probabilmente sarà così. O liberarlo dalla maledizione, come avrebbe voluto Kat. Vi ricordo, Bardestan, che avete anche tipo una città che è lì, che avete lasciato da un po' di tempo. Vuoi che io li mandi a Kretzk? No. Ci può stare. No, ci può stare, ma glielo posso chiedere, dico. Quindi sareste in grado di difendere Kretzk in nostra assenza? Daremo la nostra vita, la nostra non vita, per proteggere gli innocenti come facevamo in vita. Kretzk avrà tutto bisogno del vostro coraggio, nobile Oriordan, in nostra assenza, nella speranza di ritrovarvi quanto più numerosi possibili al nostro ritorno e di poter marciare infine insieme contro il maligno. Di poter marcire? Marcire insieme dentro il maligno. Cosa? Faremmo del nostro meglio, nobile cavaliere. Faremmo. Va bene, andiamo tutti insieme comunque, anche noi andiamo, passiamo da Kretzk, o sbaglio? No? Sbaglio? No, andiamo diretto. Allora ciao. tanto tempo. Salutatemi. Andremo insieme. Allora vaffanculo. Allora salutatemi gli altri. Ah no, portate questo in memoria di... in memoria di me. No, date di... questo messaggio a Martinkov. Suka. No, gli scrivo un appunto Verata. Nitto. Dove gli dico che il nobile ordine del drago d'argento è lì per difendergli il nostro nome e di tenere duro quanto più possibile in nostra assenza. Lo faremo senz'altro. No, lo scrivo, così lo dà al tizio. Bene, allora grande. Comunque ci starebbe, tipo, abbiamo ritrovato delle antiche iscrizioni, si vede tipo lo spadone nelle braccine di un tirannosauro gigante. È il destino, è il destino. Ma porca troia. Certo. Cosa guarda in diretta? Ah, la mappa. Okay. Va bene, mostraci la via, Katta. Vamo. Esatto, vi mancava la mappa, vero? Noi siamo in 11. No. Noi siamo... in Q. Dove hai letto 11 che sono delle... Noi siamo in Q, suona molto bene. In Q, esatto. Siamo in Q ora, yeah. Siamo in Q. Vedi che io so cosa facciamo. No, chi è? No, non è un 11, siamo è un H. Q e dobbiamo andare in X? Dovete andare in X, ma non sapete dove è X, sebbene se no, vabbè, sì, X infatti è una cosa così, ipotizzata. Ah, cazzo, nemmeno lo sappiamo, è macello, e nessuno lo sapeva. Non c'è una grossa X sul fianco di una montagna? Troppo innevata. Però sappiamo la direzione, no? Cioè, che strada più o meno dobbiamo prendere, lo sappiamo, no? Sappiamo che sono le montagne. Il Monte Gacchis è lì dove sta il tempio. Non sappiamo dove sta esattamente il tempio. Sta su quel... grande. È un monte gigantesco, freddo, in cui c'è un freddo cane, in cui è pervaso da energie selvagge, di forze della natura e peggio. Ci stanno anche i barbari, no? Ci stanno anche i barbari, esatto. Ma scusami, Kretzk non è la... è razzista. È lontano. No, sì, non c'è cosa. I barbari sono inferiori. Ma qui non avevano trovato nulla come pelli e robe varie, vero? Non lo dico io, lo dicono fin dai tempi dei greci. I barbari sono inferiori. Pelli e robe varie non ricordo, non, per quanto... I greci non ne vedo, di barbari il mondo è pieno. Avevate trovato solo delle vecchie, anche perché questo posto è saccheggiato. Magari non ci sarà una Barovia, perché no, siamo sullo slavo andante, però... Reis tipo... Tutti i barbari, quindi. Uno stendardo gigante, come si chiama? Una razza gigante. È vero. Che Reis gira con la razza. Lo volevo dare a Vezza, non l'ha voluto, cazzo. L'ho preso per spegnere il fuoco. Vabbè, ci facciamo una bandiera, dai. Figo. Ma aspetta, puoi rimetterci la mappa un attimo? Perché non vedete più la mappa? Ho messo ora la streamer in pausa. Se faccio così ancora capire. Allora, da Q... cioè, noi dovremmo proprio andare per le montagne, praticamente. Esatto. Verso e sì. Questi... e T cos'è? È il passo. Non c'è nessun villaggio da queste parti, però è completamente natura selvaggia, montagne impervie, e come vedete la strada passa a un sacco di altitudine a un certo punto attraverso il fiume. Quello attraverso il fiume è un ponte che sta sospeso a migliaia di piedi di altezza. Che cosa ridicola, Katta? Cioè, perché qui ci stava benissimo torno a fare la strada come abbiamo fatto indietro, quindi scendere dal dirupo con le aquile, poi costeggiare il fiume e poi salire il monte. Invece no, dobbiamo direttamente salire i monti, perché c'è il fantomatico ponte sospeso. È l'unica via. Io soffro il freddo. Cioè Giulio non ha capito, è tutta la sessione che vuol farti andare al tempio e non vuol farti andare da Strad, ti ha direzionato tutta e adesso te la prendi per il cazzo di ponte. Sì. Ok. È meglio che ti copri. No, tutti vabbè, non abbiamo montone, cazzi e mazzi. Lo soffrono tutti, chiaramente quelli che hanno una costituzione più alta lo soffrono meglio. Cioè, no, ma io lo dicevo in quanto il mio animale è un montone, animale di montagna, vengo dalle montagne. Nessuno di noi ha quell'incantesimo che fa il coso dove puoi ristorarti. Non so, mi ricordo un cazzo sia. La capanna di qualcosa, quella roba lì. Secondo me a livelli più alti. Ma no, no. Io non credo. Vabbè, intanto lo cerco, intanto catta tu continui. A giocare, cara. Vabbè, quindi dobbiamo trovare dei vestiti. Esatto. Beh, altrimenti caccia grossa dal druido dobbiamo fare. Chi percorre quella zona senza il druido deve farci cacciare dei mammut in questa zona. Così ci prendiamo le pelle per andare. Perché io devo farvi cacciare io? Perché sei un cazzo di druido, quindi... Ma non abbiamo dei vestiti invernali nella donazione. Io non ammazzo gli animali per gusto, perché te è freddo. Piuttosto mi trasformo in un orso e ti abbraccio, se vuoi, dell'affetto e del calore. Bene. Mi trasformo in un orso e abbraccio Vez. Quello mordo. Come tirannosauro. La mia spada! Vez, nelle schede non abbiamo dei vestiti invernali, dobbiamo andare a prendere. Beh, qualunque cosa io dica è la verità, immagino, giusto? Esatto. Beh, abbiamo l'Explorer Pack. Termosifoni portatili. Termosifoni portatili. Hotel a 5 stelle, piantabile. Abbiamo l'Explorer Pack, prevede... L'Explorer Pack non c'è? Coperte termiche. Andiamo a vedere cosa c'è nell'Explorer Pack. Cioè, io ho l'Explorer Pack, poi non so voi cosa abbiate. Posso guardarci, però. Se ci tenete. Ma sì, ce l'abbiamo tutti l'Explorer Pack. L'Explorer Pack è possibile che ce l'ha... Cioè, non tutti, ma quasi tutti. Io, rega, devo cominciare ad andare a Nanna. Allora, io no. Vabbè, questo... Mi piace Salini. No, però... dico, non ho l'Explorer Pack. No, sì, io ho l'Explorer Pack. Ah, no, sì, ma anche come... nell'Explorer Pack c'è giaciglio, kit pranzo, scatole di giorno, di sgombro. Io qua mi dà nella scheda, io c'ho il six pack e il no, raga, ma me la segnate, Archie, tu puoi diventare un orso polare. Certo. Diventa un tiranosauro, sarebbe scandaloso se non potesse. Lui per il freddo è posto. No, sì, ma quello chiaro. Diventa un pesce. Zaino, no, sbagliato. Nessuno zaino comprende abiti invernali. Allora... Però, catta... O davvero facciamo della caccia grossa... Nel momento in cui evoco dei lupi, se li scuoi, muoiono e si scompaiono. Druido potente. Cioè, alla fine... Andare a Kresk non allungherebbe di tantissimo, allungherebbe di mezza giornata andare e tornare. Magari a Kresk possiamo rifornirci di abiti pesanti. Magari no, penso che sia più lontana Kresk. E possiamo guidare la carica con i 20 tizi che ci stanno aspettando per attaccare. No, sono tipo 2 ore e mezza in più andata e ritorno. Sì, 6 ore in tutto, mezza giornata. Andare tornare, in effetti però è vero, dopo noi potremmo fare la strada... Quella lì che passa per 10, no? Che alla fine è la strada normale. È quella che dovete fare. E quella faremo, vai. Ah, beh, vabbè, ma allora cosa c'è in R? L'incrocio del bivio. È il bivio. È il mitico bivio. Boh, sì, vabbè, a sto punto passiamo da Kresk, prendiamo delle robe invernali e andiamo. Vado a Nanna. Ma ci sono le cose invernali a Kresk? Mangia qualcosa prima di andare a dormire. Sì, avranno delle pelli, dai. Dov'è la telecamera? Qua. O se no facciamo caccia grossa nel coso, però il druido dovrebbe farci un... Cazzo, Stradini. Perché in bocca al lupo? Domani ha la una giornata bella lunga. Morte. Buona giornata. Bella rega. Buon pranzo. Cosa lavora? 4 ore? Tardi. Fare le 9 alle 9. Faccio 9:21, Vez. Con viaggio a 100. Senza pranzo, che ho già fatto adesso. Abbiamo risparmiato tempo. Buonanotte. Ciao. E vabbè, abbiamo sentito anche questo. E, non lo so, o rega cacciamo nella foresta e vediamo se riusciamo a recuperare un po' di pelli per farci gli abiti. Possiamo andare tranquillamente in città, tanto non sono quelle 6 ore che ci spostano, secondo me. 6-7 ore, cosa ci vorrà tra la territorio? Vabbè, allora quindi un pezzo di strada lo facciamo con i Regaz, comunque. Con la Crest, fino a Crest con loro. Non mi ricordo. Dai, non perdiamo tempo. Andiamo? Andiamo a Kresk direttamente con loro. Ok. A meno che non... No, sì, tanto non ci mettiamo di meno. Non abbiamo delle cavalcature, quindi tanto vale farla con... No, se becchiamo un corvo dei Martinkov on the way, potremmo dirgli... Di portaci del... Esatto. Ma noi siamo più o meno malvagi, siamo sicuri di voler fare il tragitto con dei paladini buoni. Ma chi ha detto che siamo malvagi? No, Marco, da quando c'è il più uno per chi si oppone a Strad è cambiata la cosa della compagnia. No, la nostra compagnia è più o meno neutrale. Perché più o meno malvagi? Nella mia scheda c'è scritto buono. No, non ci credo neanche se lo vedo. No, vabbè, buono. Caotico neutrale. Esatto, cioè... Sì, siamo caotico neutrale. C'è una mia scheda, quindi caotico neutrale. Caotico neutrale, Arci sarà neutrale. Forse caotico neutrale anche lui. Sempre che abbia messo qualcosa in allineamento. Non credo che Arci abbia un allineamento, però posso guardarci. Vabbè, la maggioranza è neutrale. Poi c'è Vez. Io sono caotico malvagio. Io sono un neutrale malvagio, quindi se vedono me, vedono Atanas, ci vogliono spellare vivi. E Vez è legale buono. Però Marco non si è mai comportato troppo in maniera malvagia. No, io sto usando il party per i miei obiettivi. Secondo voi che allenamento è, Arci? Neutrale puro. No, non c'è scritto niente. Senza allenamento. Non c'è allineamento. Non c'è scritto, chiaramente. Però lo ipotizziamo noi. Come gli animali, in allineato, perché non possono essere malvagi. Vez aveva finito le monetine. Dopo che ha preso il background alla macchinetta. L'ha tenuto così perché, per dire, se adesso gli serve di essere buono, perché ha un più 2, mette buono. No, ma non hai capito, c'è una motivazione profonda, perché lui ha contatto con la natura, gli animali sono non allineati, non sono... Bravo, la natura non è buona, non è malvagia. Ricorda, suggerisci la prossima volta. Suggerisci, bravo. Oh, buona perché... questa, buona Marco, buona. Però col buono ho il più 1, quindi sono buono. Ok, partendo da chi sta più in alto, tirato al divento. Sono io quello che sta più in alto. Cosa vuol dire chi sta più in alto? High ground, nella scala dei valori. Show. Ah no, nella 12. Schermata sono diversa. Nella mia Fumble. Schermata sono io il primo. Quindi... No, perché sei ma sei dal cellulare? Sì. Perché sei dal cellulare? Io sempre. Ok. Devo ritirare perché in B. 11. Ditemi quando sta, me. Adesso direi. 19! Cattino per la cronaca o critico brutale. Cioè quando faccio critico aggiungo... Ragazzi, con i tiri alti che succedono le sfighe. Non l'hai ancora imparato? Al 55. So. hai critico brutale, però 19. Sì. Va bene. Tira un... Di 12 più di 8. Di 12 di 8. Trovi una parrucca viola. Ho fatto solo 8. Ho fatto 1 col di 12. Ok. Allora la scena che osservate è simile a una che avete visto già in precedenza. E attraverso la nebbia vedete galoppare verso di voi un cavaliere scheletrico Sì, è cavaliere cavallo. Sì, la scena di battaglia. No, no, è reale. Mentre vi state incamminando con i vostri amici, attraverso la nebbia c'è questo cavallo scheletrico cavalcato da questo cavaliere, anch'esso scheletrico. Ah, c'è proprio uno scheletro sul caso, su uno scheletro. Okay. Che esce al galoppo dalla nebbia contro di noi. Beh, questo è arrivato un po' in ritardo. Benvenuto. È uno dei vostri amici. Si fa male osso contro osso. Insomma, c'è la sella, ricoperti da cotta di maglia arrugginita. Ah, okay. Non è il tipo di indumento che ci serve. Ok, dobbiamo tirare l'iniziativa. Vabbè, arriva verso di noi. In che guisa? Questo sta cavalcando come dire, non cambia. Ah, io ovviamente ho rifatto l'alce in questo tempo. Okay. Quando mi sono riposato. Non cambia velocità. Cavalca come se non ci fosse nulla di fronte, nessuno di fronte. Ma a te. Sta proprio caricando oppure sta andando avanti? Sta andando avanti come se non vedesse nulla. La nebbia ha una visibilità di 30 piedi. Beh, possiamo. Quindi lui spostarsi. È entro 30 piedi. Uso plasma terreno per affossare il terreno davanti al cavallo. Ok. Sono dritto, perché dobbiamo andare in fastidio? Se non lo facciamo dritto, ci siamo noi. No, sembrava andare per i cazzi suoi. Sì, ma dritto davanti, contro di noi. Vabbè, io sono il paladino, gli dico... Alto là, cavaliere, identificati. Io lo abbatto. E poi, esatto, è bello, tipo, tipo, esplosione di roba, Giulio, ma un bambino, scozziamolo. Va bene, se qualcuno fa un'azione ostile, allora tirate iniziative. No, poi non è proprio ostile. No, tu no, ma Atanas sì. Ho detto appena a posto, cioè, quindi non lo so. Sì, subito, perché esce dalla nebbia e da 30 piedi. Quindi... Ora possiamo fare tipo iniziativa da subito, vedere che ognuno che fa. 12, ah giusto, 14, 15. È vero, verso, ma avevo ancora un barlume di speranza. Anzi no, 16 ho fatto. Vabbè, ma tanto io, ma no, io faccio talmente poco. Di dado. 4. 21 totale. Ma il più che abbiamo, su che cos'è? Tiri salvezza e classe armatura. Se sei contro strada. Vabbè, ma io ce l'ho. Siamo sicuri? Beh, dai, almeno io sì, cazzo. E se a sorpresa... Avremmo già finito l'avventura da mo'. Sarà per voi. Tipo... E quindi esatto. Diventati sì, vassalli di strade, vero. Vissero tutti maledetti e continui. Irina avrebbe già fatto dei bellissimi figli. Esatto. Avremmo già un'altra campagna. Fortuna, cosa hai fatto? Saremo già 13. Magari saremo già a livello 10. No. Avremmo okay. Potuto già giocare a prima serata o fare un'altra di danno. Ok. Direi race, hai fatto 20 naturale. Spero, cazzo. Ma io vedo che cioè, Giulio gli ha già sparato qualcosa in teoria. No. Vedi che sta incoccando la freccia, immagino era quello che voleva fare. No, io estraggo le spade. Vedi che sta iniziando un'azione ostile. E i tuoi riflessi ti permettono di agire prima che lo faccia. Tanto probabilmente io con le balestre non gli faccio un cazzo di nulla, quindi... Diciamo che, Sala, io ho le mani sull'elsa delle spade. Sì, ma tanto io non gli faccio una sega di niente, quindi... Ok, direi Garrosh allora. Sì. Io provo a... Bello sto 20! Cioè, provo a fare un cenno a Giulio tipo di aspettare. Cioè, anch'io mi preparo con l'arma in mano, però guardo Giulio come dire aspetta un attimo, vediamo come va la situazione. Atanas, scusa. Atanasio. È più tipo uno sguardo sconsolato, tipo no, ti prego, io estraggo le spade, ma finché ecco, lui bambino. Io estraggo le spade, ma finché lui non arriva non è che vado. Anche che rincariamo la dose. No, no, tu gli tiravi la freccia, me lo ricordo. Quello scherzo. No, è stato io ho detto un bambino, che lo abbatto appena riesco. No, non ho detto, le frecce le avevo tirate fuori quando sono stato svegliato dall'esercito di... Appena e adesso. Nel senso che lui appunto cavalca come se non vedesse altro che la strada. Quindi... Bello, sparisce la mia testa. Bello. Scusate. Perché con il riflesso sulla pelata. Ma scusa, noi siamo davanti a lui, no? Sì, lui sta venendo verso di voi al centro della carreggiata. Quindi... Ok, lui era a 30 piedi da noi, quindi esatto. Lui fa un movimento e poi? E arriva di fronte a voi e fa per andare dritto, quindi... Ma non può oltrepassare un quadretto. Anche Gandalf quindi... l'aveva detto, tu non puoi passare. Mi sembra coso, Stannis. Tu mi metti al muro e ora non so più niente per cui scappare e va di che l'ammazzi e basta, porca puttana. Prende la via più breve per aggirare l'ostacolo. Non c'è altro modo. Esatto. Non c'è altro modo e ora non può più passare. Qualcuno mi fermi. Come una specie di rumba che prende contro. Che schifo, ho fatto un critico, che poi un 17 e un 10. Che schifo. Ok. Vabbè, perché ha tirato 2, 9, 20. Beh, hai fatto un critico. Beh. Quello davo per scontato. Esatto. Ok. Con quanti prendo? Direi tutti perché la tua armatura è 13. Abbiamo fatto un 10, quindi uno non prende. Hai fatto 10. Non so, la classe armatura. Ah no, niente. No. Quanto abbiamo di proficiency? Più 4. Più 4? Ah, quindi ho più 5, più 9. Ne ho fatto 11, quindi comunque non lo prendo. Quindi lo prendo con 2. Mm-hmm. Posso prendere il cavallo al posto del cavaliere? Sì. Anche il cavallo a 13? Sì. Allora. Un cavallo bambino. Niente, mi piace ammazzare i cavalli. Questo è vero, la brucia. 20 danni. In totale? Sì. Okay. 4, 4, 2 più 10. Dopo questa campagna il tuo personaggio avrà il titolo uccisore di cavalli. Ucciso il cavallo? Il cavallo. Beh, di solito ti arriva un cavallo che contro chi è che ha detto cavallo slayer? Cavallo slayer? Ma è morto il nostro cavallo? Un cavallo contro, tutti sposti di lato, colpisci le gambe del cavallo per far cadere il cavaliere. Quindi lo colpisce e fa un cazzo in realtà. Le tue spade infliggono danni pesanti, ma per un po' elo il cavallone è ancora intero. Bastardo. Dopodiché, sfortuna. Beh, a questo punto non so, l'azione di prima era preparata o questo è un turno puro? È un turno puro. Ma direi Eldritch Blast. Non mi deludere. Eldritch Blast. Ora ne userò una. Ok, faccio allora un Eldritch Blast contro il cavallo per si è ancora 10 da qualche parte. E l'altro Eldritch Blast sul cavaliere per aspetta, spettacolare. 18. Colpisce? 18 sì. Cazzo, se ce li ho. 11 di danno. Ok. Allo stesso modo, il cavaliere è pesantemente danneggiato, ma è ancora in piedi. Non hai colpito il cavallo? Ha fatto 1 e 1, il cavallo ha fatto 10. Detto ciò, il cavaliere, visibilmente irritato, risponde agli attacchi e attacca Atanas con la sua spada corta. Domani. Devi farlo attaccare Valdestan a quel punto. Sì, 18 Atanas. No, perché ho il più uno di classe armatura. Manca il cavallo, grazie. Una zoccolata però... viene fermata da sentimenti di bontà e di... Aspetta, come fa ad avere il più uno di classe armatura? Dai, vergognoso, la vergogna, arbitro venduto. Ce l'abbiamo tutti, chi si oppone a Strad, ci stiamo ponendo a Strad. Come la Juve. Guardi, sarebbe il momento di fare la doppia. In realtà perché arriviamo al tempio e Giulio... Noi avremmo regalato Strad già dall'inizio, ma a seguire te, volerti bene... Ma è uno scheletro e basta? Un cavallo scheletro. Arriveremo al tempio e Giulio darà fuoco a tutto. Non lo so, sono un po' combattuto. Non è quella l'idea base proprio. Ma tanto anche se parlo, che cazzo cambia? Voi l'ammazzate. Prova di religione. Prova di religione, bravo. Cazzo. Perché usi il mio personaggio? Stavo scherzando. Se mi dici qualcosa posso anche fermarmi, no, boh, vabbè, io provo a dire fermatevi, non è necessario, forse non è dalla nostra parte, forse è dalla nostra parte. Sir, identificati. Faccio un persuasion su questo tizio. Beh, però anche sugli A, anche su di noi. No, vabbè, su voi non so che non funziona. 14. Ok. Capisci che questo tizio è questo scheletro, è come se fosse un guscio vuoto che va avanti per inerzia a cercare all'infinito una via di uscita da Barovia. Va bene. E quindi favori stiamo facendo. Eliminatelo. È pur sempre un incontro casuale dato dal mio dado, non dimentichiamo. Va bene, no. va bene. Non voglio rovinare il ruolo. Mossa paladino fatta, check, andate pure avanti. Esatto. Riordan prende il suo spadone e lo sega a metà dicendo morte ai servi di Strad e... morte sempre, forse non è necessario morte dimmi che dice qualcosa a Vardistra del tipo vedi come si fa, che cazzo fai, parlamenti ancora, schiaffo in faccia, non hai ancora capito come funziona qua, cazzo, questa è Barovia. Devi fare questa scena, si gira verso Valis e gli dice bene, adesso il tuo spadone lo dai a me che so come usarlo. Vabbè, ci sta, ho paura di usare lo spadone, che si era potrei accorgervi che non è più due, davvero. Arrivate a Kretsk e sentite le corni suonare e un vi accoglie strano. Vedete del fermento sulle mura con le guardie che vengono allertate dai corni. I tuoi prodi, i fidi. Mongrel. Grazie. Gli elfi ci sono anche in teoria. I signori di Kretsk sono tornati. C'è una compagine composta da mongrel, elfi e tipo scappati di casa dei contadini di Kretsk. Esatto, è bellissimo. E ora ci mettiamo dentro anche dei paladini non morti, siamo al top. Sì. Società multietnica, integrazione. No, quello è vero. Nel momento in cui i figli guardiani si accorgono che si tratta di voi, passano dall'avere un atteggiamento di guardia e di essere all'allerta invece a ululati di gioia per il vostro ritorno e quindi vengono a leccarvi ad annusarci il culo. Alcuni paladini non dispiace questo atteggiamento. E va bene, giubilo e forza, vi riaccolgono con grandi onori e grandi feste è giorno, no? Scodinzoli. Bene, questa, perché, perché in questa campagna i paladini sono in allora questa sera consiglio della città, indetto consiglio della città. Ah sì, una bella riunione straordinaria. Chi partecipa? Ovviamente i signori di Kretzk, Martinkov. Noi, Martinkov, Pietro. Pietro, il capo, dici? Il capo degli elfi. E Oriordan. Beh no, ah sì, Oriordan, l'altro è rimasto là, sì, Oriordan direi. Sono quelli. Io non partecipo, più lontano dai paladini sto meglio. Ok. Vai, altri capito, bardi strano. Così. Mi viene voglia di lanciare una palla di fuoco, non lo so. Vai. Verionite nella vostro bellissimo salone della vostra abbazia. Domanda, esatto, i lavori come stanno procedendo? Nel giorno in cui sono stati via. Stanno ricostruendo il tetto che avete dato alle fiamme. Ok. E dato alle fiamme, parolone adesso. Non è colpa nostra. Non so, è arrivato un gorilla che ha distrutto tutto, ma non so. Anche su quei danni stanno riparando piano piano. Esatto, cioè delle due più gorilla. Cioè. Va bene, e gli... Fortuna che non avevamo ancora il T-Rex. Anche perché, nonostante sia passato tipo un anno, in realtà il tempo di gioco sono due giorni. Sì, sì, infatti, noi saremo a Barovia da tipo due settimane. Forse. Va bene. Forse neanche. Amici di Kretzk, è bello essere di nuovo a casa e essere riuniti con voi. Oggi con noi un nuovo amico. Il prode Oriordan, a capo di ciò che rimane del glorioso ordine del Drago d'Argento. Sono venuti qui con l'ultime loro forze per proteggere Kretzk dal male, nel periodo in cui noi saremo assenti. Infatti dovremo spingerci verso l'estremo per cercare una risposta a domande necessarie per affrontare il maligno. Ma ditemi voi, che novità avete avuto negli ultimi tempi? Prende parola il capo degli Elfi, ma chi se ne frega? I corvi puzzano, non ci piacciono. Nobile Vardistram, noi abbiamo buone notizie. Per qualche oscuro motivo le foreste a nord della città non pullulano più di oscuri malvagi lupi mannari, e questo ci ha permesso di foraggiarci molto di più con la cacciagione. Molto bene. Ecco, non importa, se avessi un pezzo di merda. I lupi non ci sono. E poi dovrebbero essere anche arrivati il carico, sì. E anche i bambini. E anche la tipa. E anche la tipa che abbiamo liberato dalla strega. E i bambini sono arrivati? Certo. Vabbè, allora siamo al top. L'abbiamo già messi al lavoro. Aspetta, sì, anche il figlio che abbiamo liberato dalla strega. Sì, sì, esatto. Perché alla fine non l'abbiamo ucciso, nonostante mi stesse molto sui coglioni. Martinkov prende la parola molto commosso e vi dice: io avevo perso ogni speranza ed ero pronto anche a talmente disperato da pensare di porre fine alla mia travagliata esistenza. Madonna, no, dopo la perdita del mio primogenito ho pensato di farla finita, ma voi mi avete riportato ciò che ora è più prezioso al mondo, e per questo vi sarò eternamente grato. E giuro sul mio onore, sulla mia parola e sul nome della mia famiglia che darò la mia ultima piuma per proteggere questa città e la sua. Molto bene. E da Vallachi sono arrivate altre notizie? Dopo che non l'abbiamo lasciata, purtroppo da loro ho avuto aggiornamenti, e questo mi rattrista perché temo per la sorte del dell'altro mio figlio. I bambini come stanno? Oh, stanno bene, si sono splendidamente ripresi. Quando sono arrivati erano tutti strane, una condizione molto preoccupante, devo dire. Ma adesso li potete trovare che sforrazzano per la città e che giocano con i loro amici Mongrafor. E gli lanciano i bastoncini, loro li riprendono. Tutto molto creepy, ma in fondo non c'è, è quasi un miglioramento. Tutta questa calma apparente non fa presagire nulla di buono, ed è molto confortante vedere che sono arrivati questi rinforzi veramente ispirati. Inoltre, il morale, da quando c'è quella strana luce in cielo, inspiegabilmente si sente tutti molto più confortati e molto più... È vero, adesso ci hanno anche loro il più uno nella CA, ti risalvezzi. Tutti coloro che... Questo... Di pure. No, gli chiederei delle vesti invernali. Sì, allora... Il motivo per cui siamo qua è quello. Va bene, cercheremo in tutte di provvedere a raccogliere tutto ciò che possiamo trovare nella città e vi consegneremo domattina. Foglie, paglia. Con loro abbiamo già parlato del tempio, no? Forse sì, più o meno. Beh, sì, ci abbiamo parlato. Sono sicuramente con Martin. Con gli elfi forse no, però... Ma quello che sapeva di più era Casimir. Esatto. Sì. Possiamo anche andare lì tornare alla grotta per farci le pelli con le pelli di lupo mannaro. Le pellicce con le pelli di forno. Ma scusa, questi non c'hanno proprio un cazzo. No, ce l'hanno. No, ce l'avranno. L'altro è anche la pietra, però mi chiede. Raccoglieremo tutto ciò che possiamo trovare e vi consegneremo. Tu hai ancora la pietra? Sì. Non l'hai ancora ingoiata? No, ancora no. Sto aspettando il giusto momento. Tu hai ancora la pietra? Ah, giusto, quindi sì. È vero, Martin può vi chiedere, ma ora che avete sconfitto la malvagia Baba Lisaga, ditemi. Non abbiamo trovato niente, Martin. Vaffanculo Martin. L'avrà nascosta da qualche parte. Adesso con più calma andremo a Carlo. Però. Ma io so che c'era Giulio. Che terribile delusione, non lo so, non mi ricordo. Giulio Thundershark. L'hai trovata quella pietra? L'ho trovata dentro casa della strega. Dentro allora ce l'ho solo io, mi sa. Sì, ce l'hai solo tu. Ma non la puoi dare, scusa. No, la voglio mangiare, però in un'altra. volevo fare gli esperimenti. No, ma mi sembra che nel momento in cui ha preso la pietra non c'era nessuno. No, ma non ti fa niente, loro ci fanno il vino. No, c'era Race dentro la casa della strega. Perché quella merda lì l'ho aperta io e mi sono cagato sotto. È vero. No, tu hai aperto un'altra cosa. La pietra era incastrata tipo nel pavimento. Io sono entrato da gorilla, ho perso la gorillitudine. Però nel frattempo avevo spaccato il pavimento fino a far vedere la pietra. Poi avevo preso la pietra. Ah, ok. L'avevo strappata da... Forse non ce l'ho neanche. Però non l'avevo ancora mangiata, volevo mangiarla, però non l'avevo... E quindi niente, Martin Cooper torna depresso perché non avete trovato la pietra. Magari potrebbe essere utile adesso che andiamo tra le nevi. Chi lo sa? Solo facendo l'esperimento si può sapere. Vabbè, sei caotico malvagio. Vabbè, non è una cosa malvagia, mi sto tenendo una fatto io. Beh, sì, è abbastanza malvagio, è una cosa che sai che a te non serve un cazzo, a loro serve e gliela vuoi negare. E lui depresso, e come del fatto che sia depresso, direi che non è godo del fatto che sia depresso. Lì gli stai ridendo come un pazzo, dai. Ma il mio giocatore, non è che il mio personaggio sta ridendo come un pazzo. Non abbiamo trovato nulla. Il mio personaggio lo sta facendo, ma dentro di sé. Mi dispiace, Martico, ma quanto mi dispiace. L'ha detto questo. È lui che ha iniziato a scassare il cazzo sulla pietra. Volevamo questa e non l'abbiamo trovata. Ma ce l'hai in mano? Vez si chiama Bottino di Guerra. Se avesse un'utilità per te, potrebbe anche considerarsi neutrale come mossa. Vediamo domani. Fastidio, ma serve a me. Magari la invece cago e la puoi recuperare dalla mia merda. Privarne loro, sì, ci sta. Allora cosa servono? Serve a far crescere. Vabbè, lega tutto questo è perché Giulio ve l'ha ricordato, se no nessuno non sappiamo che ha la pietra. No, ma infatti ci sta, effettivamente essendo caotico malvagio ci sta, credo. Sì, ma non è neanche una cosa così caotica malvagia. Loro con sta pietra facevano crescere una variante d'uva con cui è una cosa prettamente caotica malvagia. No, è caotica, ma non è malvagia. Diciamo che non è buona. Ok, non è buona, ma non è neanche malvagia, cioè. Va bene, ok, dai. Sai che gli arreca danno, quindi sì che non vado. Va bene. No, non gli arreca danno perché non gli sto. Quindi come provviste si è messi bene, no? Con questi cazzo malvagio. No, ma infatti ci sta. A provviste si è messi bene, quindi adesso, no? Se volete ne hanno anche da darvi per voi per il vostro. E poi scusa, i Martinko vanno già una pietra o sbaglio? Sì, una pietra ce l'hanno. La pietra fa il vino più scramo. vabbè, anche l'unico che c'è, quindi va bene. È arrivato quello col palato alla sopraffina. Esatto. A parte che essendo il monopolio può essere anche, cioè può anche essere esatto, benzina. No, infatti noi dobbiamo produrre. La vigna avete cominciato a farla? Stanno crescendo dei piccoli molto bene. Sono sempre passati tipo 2 giorni, quindi molto bene. Va però bene, se ha però non la pietra per far crescere le cose, cioè, se ha provviste e si è messa bene vi chiederemo un po' di razioni per il nostro viaggio. Sarà un viaggio probabilmente molto lungo, però vabbè, non evitiamo ovviamente di affamare la popolazione. E finché la situazione è tranquilla, continuate a quanto più possibile a raccogliere dalla foresta quello che si può e a mettere sotto sale la carne, eccetera, per eventuali situazioni di assedio che potrebbero, magari, speriamo di no. Vi attenderemo speranzosi e difenderemo con la vita. E tracce invece di Van Richten non le avete trovate, immagino. Non è stato più visto sotto queste mura. Vabbè. Le varie ronde nei boschi dei cacciatori non hanno rivelato. Hanno rivelato i resti di questo carro distrutto da una conflagrazione. Sì, ma quello lo conosciamo. Quindi sospettiamo che la sua fine possa essere legata, cioè, lo suo destino possa essere legato a questa cosa. Ah, ma che stupidi, avremmo potuto chiederlo ai lupi mannari quando siamo andati. Vabbè. Comunque, per quanto riguarda l'aspetto prettamente militare, affidatevi al buon Riordan, qua al buon Sir Riordan, la cui capacità sono estremamente valide. Tra l'altro sono la guardia cittadina perfetta perché non consumano. E non hanno neanche bisogno di riposo. Cioè. Però si trombano la gente. E vabbè, quello si trombano tra loro. Dategli quello di cui non ha bisogno. In verità è una cosa, secondo me, molto intima. Per come sta, diciamo... che cosa era rimasto di libero? Vabbè, li alloggiamo qua, nella abbazia. Ma non hanno bisogno di alloggi, non stanno sulle mura. Boh, hanno bisogno di un alloggio, mi sa. Li alloggiamo qua, nell'abbazia, tanto il fatto che sia maledetta per loro non è un problema, credo. Non l'avevamo smaledetta. Boh, vabbè, non si capisce. Smaledetta. Smaledetta. Smaledizione. Va bene, possono prendersi gli alloggi dell'abbazia in nostra assenza, comunque, che sarebbero i nostri. Va bene, bella, ciao, dateci le pelli, addio. Esatto. Vai. Ti ringraziano della tua nobile concessione, ma dicono il male non riposa mai e non lo faremo neanche noi. Te l'ho detto. Oh, tutta storia. Va bene. Andate quindi a dormire. Sì. E... chi è che è ancora il Venturi? Nessuno. Nessuno, credo. Che è ancora incubi, perché credo che se ne hanno fatti tutti rimuovere da Bingo. No, la mia più che altro si era disargentata, mi sa. Non era legato a quello. La mia non ancora. Però sono stato assente, non so se poi è successo. Una volta contratto il Covid... ah, ma quindi forse anch'io ce l'ho. Se non no, ci ha smaledetto il tizio, il paladino. Anche a me? Ha smaledetto solo te, credo. Vabbè, allora fottetevi, stronzi. Ciao. Dovrebbe aver tolto la maledizione il paladino. Non so, io gliel'ho chiesto, lui l'ha fatto, voi fottetevi. Abbiamo avuto la sessione privata speciale. Una volta che viene contratta firma. Dovrebbe averlo fatto a tutti quelli che l'avevamo fatto a tutti, non mi ricordo. Vabbè, per essere sicuri direi che potete prima di andare a letto. Non mi pare che avesse detto incontriamoci in privato dopo a sala. Ci sono incontrati in privato, abbiamo fatto tutte le battute, doppi sensi eccetera. Vabbè. sì, io mi ricordo che mi ha cavato la maledizione personalmente perché gliel'ho chiesto. Cioè, più che altro non gliel'ho chiesto, Kat ha fatto, volete che vi rimuova qualcosa? Vabbè, ma non è un problema, io una posso farmelo da solo, perché... a punto. Esattamente, sì. Rimane solo uno, quindi. Giulio, sei mutatissimo, non ho mai sentito una persona più mutata di te. Non ho mai aspetta, sentito una persona più muta di te. No, credo di poterlo fare, in realtà. Ma secondo me è l'unico che eventualmente potrebbe... Ah no, aspetta, è arrivato l'audio adesso. No, stai scemo perché non c'era. È un ritardo cosmico. No, è che io lo sento. Ah, ok. Sì. Non sono mutato, lo senti, me l'ha parlato due ore fa. Non stavo guardando. E stavi sentendo le parole di adesso con la espressione di prima. Dovrebbe arrivare adesso qualcosa in cui lui ride e parla. Aspetta. No, ci dite immagine e audio. Sono in ritardo. Perché sono in ritardo, lago come un maiale. Ah. Eccola, è arrivata adesso. Sono un maiale. Comunque Giulio, il concetto di Giulio è che dovrebbe averlo fatto a tutti tranne a Sceo che non c'era. Vabbè. Esatto, cioè l'unico che potrebbe non averla rimossa. Ok, Sceo, tu continui ad avere gli incubi, cosa fai? Remove course, posso averlo? Vabbè, è bestem. Se non tu puoi averlo. Vabbè, allora lo faccio su di te. Bene, se ti rimuove la maledizione. Tanto del... poi dormiamo. Remove course, devo tirare? No, è automatico. No, però per poterlo fare devi distruggere un oggetto, un'arma magica, giusto? E allora componente. Tieni, mi sa. Cioè, allora tieni, mi sa. Se incantesimo per funzionare, va a spadone più duro. Ti serve per funzionare? Spadone più duro. Chiaro. Tipico. Che viene consumato quando lancio incantesimo. Certo. No, se ti servono delle componenti di soldi, dimmelo che vorrei dire di non essere sfondato. Oh, vabbè, ma sono sfondato. Tanto, diciamo, nella giornata che è appena passato, io potrei usarlo tipo due volte, una su di me e una su di lui, volendo. Esatto, siete mondi come calcio gli appena. E anche l'alcio è con noi. Allora, con questo, Katta... Comunque il punto ferita negativo rimane. Sì, sono due cose separate. Purtroppo no. Si dovrebbe fartene un altro. No, quello non si rimuove con la remove maledizione. Sì. Ma no, bel mezzo. Ma è vero. Solidarietà per il dottore. Allora, andiamo a vedere se vi portano queste pelli. Sono sufficienti per proteggersi da questo freddo immane che c'è sul monte. Capitolo 5. ambienti di allora. Una domanda? Sì, sì, ma se l'hai autochiesto. Vai, partiamo. Ah, sì, vuoi partire. Io mi sniffo un po' della polvere di sangue. Ok. Ma sì, tanto ormai, voglio dire. No, c'è un perché. Serata di libera uscita. Ero andato per percentuale. E qual è il perché che hai in mente tu? Perché voglio capire dove sta... Ah, ok. Certo. Dove stanno? Io regalo un po' vi saluto. Sì, ma non basta, vediamo tutti. 96. Ah, 96. Allora. Tu se ti vuoi appartare con gli altri paladini, fai pure. Infatti dormiamo in stanze separate, mi sa. Per lasciare Vezza. Vabbè, ma se fa parte del suo culto, bisogna rispettarlo. Quanti sono catta i paladini? Una ventina. Era super orgione, ragazzi. Minchia, quindi starai zitto se non vuoi essere sodomizzato. E congratulazioni. Io ci butterei in mezzo. Pensa tipo dei paladini che ti inculano tutte le volte e fanno felicitazioni. Hai vinto, direi. Buttaceli un paio di mongrel in mezzo. Cioè, hai vinto, spadone. E tizi che ti inculano, cioè, Vez. Hai vinto. Congratulazioni. Sono felice per te. Hai vinto. Pensa che hai inseguito per settimane e settimane Irina, quando alla fine, la sua vera veste, uno non spadone un qualche paladino. Invece i paladini ti hanno dato un sacco di roba. Sì. E anche un cazzo. Atanas, quando, a che ora del giorno fai o della notte fai questa cosa? No, quando parti. Ho svegliato. Sì. La sigaretta e poi una sniffatina di sangue. Sì, che... Il caffettino. Vedi. Adesso Giulio distrugge Kretz. Mangia la pietra e diventa Kretz. Dove sei? Nell'abbazia del vostro... Nelle vostre stanze? Sì, sarò nella mia stanza, nell'abbazia. Ok. Fammi una prova di costituzione. Ci giochiamo Giulio prima della sfida più importante. No, Giulio fa danni. Anche se Giulio fa danni. Beh, insomma, non ha armi magiche, quindi non fa tanti danni. Allora... Allora, c'è cioè, lo fai tipo impazzire, catta. Puoi scendere urlando dalla stanza. Sì, sì. Aspetta che recupero la scheda, che non mi ricordo. Vabbè, ho fatto 11 di dado, che quindi è almeno un 12. Però sicuramente di più, però non mi ricordo quanto di più. Da quanto è che non mi faccio ritirare la prova? Ok, fai, ti prendi una botta pazzesca, vai in trance. È roba buona. La visione che ti appare è quella di un giaciglio improvvisato con la lupa. Anche qui. In un luogo molto buio e umido, che sembra una specie di pittana scavata sottoterra, e in questo giaciglio a fianco a te vedi nella penombra quella che sembra la silhouette di una donna. Mm-hmm. E questo è quello che vedi, mentre i tuoi amici vedono, dopo che si sono alzati, si chiedono dove è finito Atanas. Comunque ho fatto 19, sì. Alla fine. Ok. Li vedono che è trovano che sei ancora a letto con gli occhi rivolti verso l'alto. Sono completamente completamente fatto. Un rivolino di sangue che ti scende dal naso. Sembri privo di sensi. Oh, e niente, devi fare un altro di voi maledizioni. Ha fatto 19 costituzioni, Medicine. Lo colpisco con un calcio per vedere se è ancora vivo. Medicine 14. Adesso vieni svegliato da un calcio che ti arriva. Dove glielo dai il calcio? Nel fianco. Quanto è forte? Poco. Ok. Ti svegli da un calcio sotto il fianco. Allora tipo per scuotere un animale morto per terra per vedere se si muove. Aspetta, io dico, aspetta, non alzarti. Medicine 14. Ma sto bene. Okay. Sì, lui non ha nessuna... Si muove ancora. Con la luce negli occhi per vedere la dilatazione delle pupille. Ha le pupille, vedi che ha le pupille. No, ho capito, Katta adesso sembra un rincoglionito e vedo uno che fa così, cioè, nel senso... Anche se due erano un calcio e si rinviene, ci può stare fare un medicine, cioè, per capire. Avevamo già visto anche le altre volte reagire così. Ma nessuno si era mai strafatto di sangue di... Beh, lui sì. Sì, già due volte è successo, questa è la terza. Ah sì? Ma di solito non credo che Katta descrivesse com'è dal nostro punto di vista. Forse no. No, vedi che non ha danni particolari o... come dire, non so poi che tipo di informazione puoi raccogliere. No, un po' legge, tu mi puoi anche dire, tu mi puoi anche dire adesso è tutto a posto ed è normalissimo. Se è normalissimo, non c'è problema. È semplicemente perché se io vedo le pupille dilatate, ha detto. Se vedo uno che sta lì a terra così, dico boh, vado a vedere un attimo che cos'ha, non tipo ah beh, tutto a posto. Sì, ok, però cioè, non saprei con gli strumenti che hai a disposizione per dire, cioè, poi battito cardiaco e... Medicine, faccio un po' un check di che cos'ha. Non ha ferite sul corpo, non ti sembra di vedere segni di avvelenamento o di... Non lo so, per dire, gli usciva del sangue dal naso, per dire... Sì, esatto, vedi che il set hai tutti i capillari, se fai tipo gli apri la narice per vedere dentro, vedi che appunto con qualche cosa che gli ha forato, gli ha irritato il fondo del naso tramite l'inalazione di... In questo mondo D&D c'è il concetto di sniffare roba. Che cosa è successo, Athanas? Bella zio, sto da Dio. Tra un po' arriverà l'audio. Tutto chiaro? Ho cercato... Mi sentite? Sono mega tranquillo, arriva. Ma l'ha detto tipo 10 minuti fa, mi sa, questa cosa. Con calma, sì. Tu parla, Giulio, parla. Okay. Vabbè, comunque quello che stavo cercando di capire. Cioè, non parlare sopra Giulio, santo cielo, già c'è in ritardo. Stavo cercando di capire dove è Irina. E come? Questo è un cazzo pinga, Giulia. Con Kevin e il bambino angelo. È molto molto realistico, perché infatti voi effettivamente vi risponde in questo modo. Giulia apre per la bocca e dopo tipo due ore c'è il suono. Athanas, come hai provato a scoprire questa cosa? Sfruttando il collegamento che ho col bambino angelo. No, è tornato a posto. No, è finito. E dove la botta è finita. E dove lo sfasamento è rientrato. E li hai visti? Sì, li ho visti, ma purtroppo speravo di ottenere più informazioni. So solo che sono in una, boh, quello che sembrerebbe una caverna scavata. Beh, meglio di niente. E boh, dai, stanno bene. Almeno Irina era, c'era, c'era una silhouette di donna che immagino fosse Irina. E boh, la vedevo, quindi anche il bambino c'era. Su Kevin non lo so, ma immagino ci fosse anche lui. Ma quanto era bella la faccia di Giulio imbarazzato che aspettava la sua voce. E tutto tutto bene adesso? Ti senti bene? Sembravi un po' sconvolto. No, perché prendo un po' una botta quando faccio queste cose. Ok, quindi sei pronto per metterti in viaggio? Sì, sì, tutto a posto. Va bene, allora andiamo. Partito. E io sono ancora cercando questa cosa qua. Vai, vuoi farci fare il cliffhanger? Non ho grossi cliffhanger da farvi fare, se non che adesso vi aspettano un po' di ore di scalate e camminate in montagna. E quindi è più un finale con grande visuale di panorama, tipo la compagnia che cammina sul canale della montagna. L'inizio del viaggio. Va bene. Noi che usciamo da Kretsk, la telecamera si innalza e poi inquadra la montagna sullo sfondo. È troppo tardi per proporre degli attrezzi da rocciatore, se mai da qualche parte. Eccola là, il metagaming. Io posso farne a meno. Explorer Pack, ce l'avremo. Anch'io posso farne a meno, avendo 50 miliardi di agilità. Eh no, sì, allora. Ma ce l'avremo in Explorer Pack, no? Cosa c'è in Explorer Pack? Niente, in realtà non c'è un cazzo, c'è uno zaino vuoto, pieno di sassi. Un kit per pranzare, una scatola con l'esca, 10 torte, 10 giorni di razioni e un otre. E la corda. La corda? Abbiamo la corda. Sì, vabbè. Tutti gli zaini hanno 15 metri di canna. Oh, vabbè, direi che se a Kretsk c'è qualcosa che ci può aiutare a riguardo, lo prendiamo. Tiriamo il dado? Cosa? Avete preso tutto quello che vi può aiutare. Quindi abbiamo anche la roba per gli attrezzi. Avete anche gli attrezzi. Sì, vai allora. Mentre tipo Sceo apre la borsa degli attrezzi, il sipario scende. Esatto. E Sceo apre la borsa degli attrezzi e dice, ragazzi, è pieno di strade. Ah, manette pelose, rosa. Di vibratori ha preso la borsa di paladino invece di paladino, esatto, tipo un paladino che dice adesso ci divertiamo, apre cosa del rocciatore, beh sarà una serata interessante. Va bene, e con questo cliffhanger un po' erotico inquietante vi ricordiamo che ci potete continuare a seguire sui nostri canali social Tycoon Sandragon GDR. Dici. Scusa se ti interrompo, ma puoi taggare anche Worldwide Bonazzi, forse a questa puntata. No? Worldwide Bonazzi. Giochiamo a Worldwide Bonazzi. Ci poteva giocare al torso nudo. Strano, oggi era molto pudico, strano. E, comunque, vi diamo appuntamento. Ho mangiato un chilo di pane in diretta. È buono questo pane, perché... Hai i semi. Sento proprio il sapore di pane. Con tutto rispetto, ma alle 10:30 di sera non puoi fare il pranzo del giorno dopo. Cioè non ma cazzo, ho mangiato 20 fette di pane, allora che succede? Non è logico. Vabbè, è arci. Non è fatto. Cioè, io la immagino la logica. Malata. È arci, riga. Cioè, va bene, nel senso... Ciao Sabino. No, nel senso, chiudi la diretta. Sì, chiudiamo la diretta. Grazie per averci seguito. Se l'avete fatto, se non l'avete fatto, molto male, ma ci potrete risentire prima o poi in podcast. E prossimi appuntamenti con Umbra Imperi, direi prossimo lunedì, se non cambia nulla nel palinsesto. Buona serata, tenetevi forte, fate il ditino. E salutate. i bambini sgozzati.